Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. Carissimi amici di archeologia informatica e di Quando eravamo futuro, benvenuti a questa nuova live. Spieghiamo un attimo quello che è il senso di questa trasmissione, che potrebbe disorientare qualcuno, perché, come abbiamo detto, questo in teoria è un episodio di Quando eravamo futuro in crossover con archeologia informatica, e questo è il motivo per cui siamo sul canale di archeologia informatica, appunto, anche perché è comunque il posto di maggiore visibilità rispetto al canale diciamo YouTube di Runtime Radio. Però questo è comunque un'iniziativa comune che abbiamo pensato di fare insieme, ovviamente con i due gruppi. La cosa importante è comunque considerare che il tema è compatibile con entrambe le due trasmissioni. Ma prima di iniziare, prima di parlare un po' con tutti quelli che ci sono con noi ovviamente in questa diretta, vi voglio ricordare che chiaramente questo è un progetto di Runtime Radio. Per sostenere Runtime Radio basta andare su runtimeradio.it e cliccare sul pulsante Anche Io. Lì potete fare una donazione singola con PayPal oppure abbonarvi a Patreon. Ringrazio tutti gli abbonati nuovi di Patreon, che si sono praticamente raddoppiati in questo mese. Significa che comunque quello che stiamo facendo con Runtime nell'insieme evidentemente è comunque stata una cosa positiva. Potete comunque contribuire, anche se vedete sulla chat c'è la super chat o super sticker, potete fare quello che volete e contribuire se ovviamente lo ritenete necessario o possibile, soprattutto se è nelle vostre corde di poterlo fare. Se no, fate una donazione singola chiaramente a paypal.me/runtimeradio, che questo è un po' il nostro marchio. Ma a questo punto io direi di chiamare in causa subito il buonissimo anche Carlo Sant'Agostino. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Buono nel senso che sono buono da mangiare e basta. Guarda, non lo voglio sapere, ti devo dire la verità. Cioè. Forse. Non mi sono mai assaggiato. Esatto, no, però stendiamo un velo pietoso su questa cosa, insomma. Va bene. E come ha annunciato giustamente Simone, si tratta di una puntata crossover tra Quando eravamo futuro e archeologia informatica. Ricordiamo per gli amici di archeologia informatica che cos'è Quando eravamo futuro. Quando eravamo futuro è un podcast che fa parte dei vari podcast di prodotti da Runtime Radio. È un podcast che esiste già da 2 o 3 anni, adesso non mi ricordo se 2 o 3, però esistono già diverse stagioni. Siamo alla quarta stagione, Davide. Lo potete trovare su tutti i maggiori aggregatori, basta che cercate Quando eravamo futuro, e è un podcast che parla, in pappino oggi con la parola podcast, scusatemi, che parla degli anni, della vita negli anni 70, 80, 90. Praticamente è una trasmissione di ricordi, quindi sicuramente diciamo si avvicina un po' a quello che è il discorso di archeologia informatica, che come sapete parla della storia dell'informatica e del videogioco, quindi proprio di quel periodo in particolare storico dove è nata l'informatica attuale, cioè quella personale. Ma soprattutto nella puntata di oggi affronteremo un argomento che è quello delle sale giochi, che quindi ha molta attinenza con quella che è la storia del videogioco e quindi quello che di solito raccontiamo in archeologia informatica. Ma aggiungiamo anche il fatto molto importante che archeologia informatica e Quando eravamo futuro oggi fanno questo crossover. Perché? Perché il team è praticamente lo stesso. Fondamentalmente siamo io, Simone Pizzi, Carlo Sant'Agostino, direttore editoriale di archeologia informatica, e c'è anche Davide Gatti. Ciao Davide! Buonasera, e aggiungerei anche un bel Survival Hacking Arcade che fa proprio il fil rouge di tutto. Attenzione, questo suona come qualcosa, un messaggio subliminale, secondo me. No, vabbè, ma ormai con Carlo ho perso di speranza, ma va bene così. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Francesco Splendorio. Ciao a tutti, buonasera. Francesco, incrocia le dita, incrocia le braccia. Ah, così? Aspetta, no. No, come no? Non funziona più, l'hai impallato. Oh, bene, no, lo dovevamo fare perché... Carlo, presentaci l'ospite, che insomma è... Allora, stasera, come anche tradizione di quando eravamo futuro, quando affrontiamo dei temi particolari, di solito abbiamo un ospite che questi temi li conosce bene, li ha affrontati, li ha vissuti. Almeno lui, insomma. Almeno lui, certo, in maniera, diciamo, professionale, ecco, mettiamola così. Questa sera abbiamo la speciale partecipazione di una persona che è anche mio amico da diversi anni e che è proprio ha non solo vissuto, ma proprio ha iniziato a lavorare in questo ambiente diciamo negli anni in cui noi andavamo in sala giochi a giocare. Lui era dietro che quelle sale giochi le faceva funzionare, ma non semplicemente una sala giochi, ma proprio nel settore, nell'ambiente delle sale giochi, quindi tutto quello che riguardava la fornitura dei videogiochi, non solo di tutti i macchinari delle sale giochi e di tutto quello che ci sta intorno. E l'ospite di stasera che andiamo a introdurre è Fabio Zed Cavallo. Ciao Zed. Eccolo qua. Ciao a tutti. Grande Zed. Ciao. Allora. Ciao a tutti. Ditemi pure. No, sì, sono uno youtuber, quindi no, adesso andiamo tutto. La prima comunicazione di servizio: c'è qualcuno che ha un televisore, radiolina, qualcosa acceso? Se possibilmente, no. Perché no. Entra, sento vocine. Quindi proprio. Ok, detto questo, qual è il tema? Il tema sono le sale giochi, giustamente, perché io penso che le sale giochi negli anni 80 in particolare abbiano rappresentato forse una sorta di icona proprio di quel tipo di mondo, del mondo dei videogiochi, ma anche del mondo dell'aggregazione. Era comunque una novità per certi versi. Anche negli anni 70 c'era, verso la fine degli anni 70 c'erano diverse cose, i giochi elettromeccanici e tutto quanto. Abbiamo fatto un grande excursus diverse volte, insomma, su archeologia informatica e archeologia videoludica, naturalmente. Però diciamo che la sala giochi è stato un posto importante a livello di aggregazione, a livello di novità, dove si facevano le scoperte, dove si scoprivano i giochi nuovi, dove abbiamo visto Dragon Slayer per la prima volta, cose che insomma pensavamo non fossero possibili, che poi ovviamente sono evolute nel tempo. Allora ragazzi, primo giro velocissimo prima di iniziare l'intervista, perché chiaramente l'intervista è a Zed, che giustamente non solo è qui e ci ha fatto l'onore di dedicarci il suo tempo, ma è ovviamente funzionale a quello che è il tema del parlare di come nascevano, come si costruivano, come si gestivano, come si impostava, come nasceva il mondo della sala giochi in generale. Come si copiavano ovviamente, come si truffava, esatto, sì. vabbè questo poi dopo vediamo, magari ci sono anche segreti, cose che noi non sappiamo, che immaginiamo, vediamo insomma quello che succede. Quindi ragazzi, un giro veloce: quanto è stato importante per voi la sala giochi nella vostra gioventù? Partiamo da Carlo, poi Francesco, poi Davide, ovviamente. Vabbè, sì. Per me è stata, a parte un luogo importante, cioè che ho frequentato per gran parte della mia vita, ma sicuramente io devo alle sale giochi in particolare, e il videogioco e la scoperta delle sale giochi, praticamente tutto quello che ho fatto nella mia vita. Io mi ricordo perfettamente la prima volta che sono entrato in una sala giochi, era il 1977, avevo 7 anni, a Finale Ligure, in vacanza sulla Riviera Ligure, e da lì è nata la mia passione per il videogioco, che poi ha condizionato tutto il resto della mia vita, perché è stata una delle cose che ho desiderato fare, cioè creare videogiochi, quindi imparare a quel punto l'informatica e tutto il resto. Quindi direi che è stata forse una delle cose più importanti della mia vita, ecco. Francesco, tu sei il più giovane, però diciamo anche questo. Sono relativamente giovane, diciamo. Tra noi sei il più giovane. Sì, cioè per me diciamo è stato un po' il passaggio fra l'infanzia e la preadolescenza, perché mi ricordo che dopo le medie, alle superiori, con gli amici, dopo le lezioni, dopo la scuola, si andava nella famosa sala giochi fumosa, con tutta la gente che fumava, pozzo di fumo, e si andava lì a spendere monetine. E ricordo che ho preso un stacco di botte a Double Dragon. C'erano Double Dragon e Capitan Commando, ecco, erano i miei preferiti, che un po' di epoche diverse, ma c'erano entrambi. Davide? Ma io, più che un ricordo mio, che vabbè, indubbiamente è molto simile a quello di Carlo, direi che sono i miei genitori che se ne ricordano molto, proprio per i soldi che hanno dovuto spendere, che li spendevo io, ma me li davano loro. Sì, io ho un aneddoto che però ti dirò dopo, insomma, perché adesso... Comunque no, niente, vale un po' il discorso di Carlo, è stato un po' la startup di quello che è stata la nostra, la mia passione nel cercare di voler fare quelle cose lì in qualche modo, ecco. Poi dopo magari ha virato più sull'elettronica nel mio caso, ma comunque è stato lo startup di parecchie cose. Eh sì, comunque io personalmente ricordo comunque il fatto che c'erano determinate sale giochi che in certi ambienti venivano anche malviste, no? Perché magari in certi determinati quartieri, vabbè, io vengo dalla grande città, vengo da Roma e andavo a scuola in un quartiere di confine tra un quartiere borghese e un quartiere estremamente selvaggio, diciamo così. E quindi questa scuola che si trova in questa vicino c'era questa sala giochi in Las Vegas, ancora mi ricordo il nome, e dentro c'era un po' di tutto, cioè c'era il bullo, c'era il truzzo, c'era chi fumava, diciamo che le mamme non erano contentissime, insomma. Però poi le sale giochi sono anche collegate ai posti di villeggiatura e lì già le cose magari cambiavano, insomma. Carlo, io direi che a questo punto possiamo iniziare a fare questa intervista al nostro caro amico Zed, se vuoi puoi iniziare tu, così io mi occupo inizio più del... Inizio io? Va bene, non ero pronto perché non ho il documento sotto mano. Allora... Subito, immediatamente, guarda. Ma qui... Un nano secondo, che è una persona molto alta, che, esatto, che arriva sempre che va molto veloce, va a ricaricare, esatto, secondo. Okay. Allora, vabbè, eccolo qua. Il documento, ticket track. Ciao Zed, va bene. Allora sì, la prima domanda che ha scritto Simone Pizzi, mi scuso per questa domanda. Scusa, ma che significa mi scuso per questa domanda? Ma dai, perché gliela fanno tutti. La fanno tutti, io non lo conosco e quindi faccio una domanda. Iniziamo con una domanda che ti fanno sicuramente tutti. Perché ti chiami Zed? Perché che Zed? Viene sempre dal mondo dei nerd, non quelli di adesso, muscolosi, tatuati, ma quelli che venivano inseguiti a scuola all'uscita. Esatto. Ci rifugiavamo in casa al pomeriggio a giocare a Dungeons and Dragons. E quindi io avevo scelto di essere un mago e dovevo trovare un nome. E allora me l'avevo trovato in un vecchio gioco questo nome del mago che si chiamava Zed. E allora ho detto, adesso sarò un mago. E giocavamo Dungeons and Dragons, poi ad altri giochi, tutti sempre giochi di ruolo. E dopo da lì, anche quando mi firmavano i giochi che servivano le lettere, ci mettevo una D in meno. Poi dopo ho incominciato a fare i graffiti e mi taggavo con i graffiti Zed. E nel mondo dell'hip hop, anche con i video e tutto il resto, sono rimasto quello ormai. Quindi sei diventato anche un ricercato? Sì, assolutamente. Ma Zed non era mica anche quel robot, quello che faceva bravo. Con una di sola, però ne sono tanti. Sì, quelli con una di sola c'è quello, poi c'è quello di scuola di polizia, quello mezzo matto. Bravo, bravo, sì, è vero. Però tu non sei verdura. E poi adesso ce n'è uno, c'è un design molto famoso, penso che sia o russo o americano, adesso non me lo ricordo, si chiama Zed con due D come me, che mi scrive sempre perché vuole il mio dominio Zed.com. Ma a meno di 3 milioni di dollari non glielo do. Magari a milioni di dollari io ci farei un pensierino. Però comunque, insomma, anche perché il mio dominio ce l'ho mi sembra dal 95, cioè una roba proprio vecchissima. Quindi dal 95 sei esageratissimo. Scusami, preso in America, mi sembra. Cioè io andavo all'università, non c'era neanche internet in casa praticamente, l'ho fatto direttamente. Appena era uscito Netscape, anzi Mosaic, una roba del genere. Sì, siamo in quel periodo lì, 95-96, proprio preistoria di internet. Come si faceva a comprare i domini in quel periodo lì? Bisognava scrivere le lettere in America? Se non sbaglio sì, dovevi compilare proprio dei documenti cartacei per comprendere. Sì, prendeva la lettera per posta aerea. Sì, sì, sì. averlo saputo, se avrei comprato tanti di quei domini, certo, con senno di poi, come Bitcoin, stessa cosa. www.microsoft.it. Tipo di comprare Coca-Cola, McDonald's, hai voglia, ce n'erano liberi a quei tempi. Vabbè, vabbè. E no, poi dopo le leggi sono cambiate, anche se te lo compri glielo devi dare. E non in tutti gli stati, con il COM per esempio non è così automatico, è l'IT che l'IT ricade sotto la giurisdizione e protezione del marchio, comunque è complicato, complessa, non parliamo di questo. Esatto. Va bene, comunque iniziamo a entrare proprio nell'argomento, quindi a questo punto, Fabio, e, vabbè, noi ci conosciamo da parecchi anni, però non da così tanti da quando tu hai iniziato a lavorare in questo ambiente, e quindi magari un ricordo di quando hai iniziato e quando, come hai iniziato, qual è stato il tuo primo contatto che ti ha fatto passare dall'altra parte della barricata? Lì è stato abbastanza bello, perché praticamente io e mio fratello, anche lui amante dei videogiochi, eravamo sempre al bar a giocare. Non so, quando uscivano i nuovi giochi, cioè, ritornavamo a casa tutti, cioè, che è come se avessimo fumato 30.000 sigarette, ma in realtà non fumavamo. E poi avevo in casa l'Intellivision, avevamo in casa anche le altre console tipo Pong e quelle robe lì così. Però un giorno, ovviamente, perché io mi vengono sempre delle idee strane, con mio fratello ho detto: perché non ci compriamo, ne portiamo uno a casa di gioco? Allora siamo andati in giro da tutti i vari noleggiatori. E qui si parla del 1996, secondo me. No, 86, scusa, non 96. Mi sembrava 1986, no? Eravamo già fuori target. No, 1986, che vabbè, ragazzi, il tempo passa velocissimo. E abbiamo fatto il giro di tutti i noleggiatori, e tutti dicono: ma perché volete portarvi a casa? Ma dopo, se si rompe, poi è dove lo mettete? Cioè, non c'era l'idea del videogioco in casa. Si vedeva nei film americani tipo il mio amico Ricky, non so se ve lo ricordate, che era il super mega miliardario che aveva i flipper e i videogiochi in casa, ma era proprio una roba da super ricco, no? E allora siamo andati in giro, abbiamo visto dei vari noleggiatori che avevano dei classici pronto scheda, perché non c'erano tanta roba originale così. E mi ricordo che ci avevano proposto un po' di roba, tipo un Miss Pac-Man, ovviamente tutto copiato così, a tipo 300.000 lire, una roba del genere. Che allora era una cugina. nel senso, perché comunque erano quelli che toglievano dai bar. Poi dopo. Ma 300.000 lire a quell'epoca erano come. Un salotto. No, meno. Era come comprare un divano. Era come un divano, un computer. Un bel divano. La television costava 399 euro. Appunto, costava di più di televisione Atari. Ok. E da lì non sapevo neanche come funzionassero, perché non avevo neanche mai aperto uno, no? Quindi abbiamo chiesto così. Però siamo capitati da questo noleggiatore che in un angolo aveva uno Space Ace. Laserdisc. Allora, visto che noi lo conoscevamo, perché comunque passavamo le intere pomeriggi e sere a Rimini, quando andavamo al mare a visitare le sale giochi per fare tutta la lista di giochi strani che trovavamo, e figo, un gioco laser era bellissimo. Poi all'epoca un gioco cartone animato sembrava di scherzi. Poi siamo anche appassionati di cartoni animati, tanto che adesso abbiamo lo studio di animazione, facciamo cartoni animati, quindi siamo sempre stati appassionati di cartoni animati. E sto qui fa: no, ma questo qua costa tanto, poi si rompe sempre, e volevano 500.000 lire. Adesso se lo dico a tutti quelli che ascoltano, 500.000 lire per un Space Ace Atari. Ci sarebbero 250 euro al cambio. Infatti, beh, mettici l'inflazione. Poi solo il joystick. Erano anche in molti bar fuori ancora un sala giochi, perché mi conto che più o meno nell'86, figurati, era 84 quando è arrivato, 85, quindi era, dico, quasi appena uscito, tra virgolette. E allora, visto che il nostro budget era intorno ai 300.000 lire, ha detto: beh, tienilo lì che aspetta un attimo, ci pensiamo. Intanto, cioè, sono andato a fare volantinaggio, siamo andati a fare il giro delle nonne, i nonni, insomma, così, e siamo riusciti ad arrivare a 500.000 lire. E alla fine ce l'hanno portato a casa, e l'abbiamo messo in camera mia, ovviamente, perché in realtà era la camera dove io e mio fratello ci facevamo, giocavamo i giochi, quelle robe lì così, insomma. Vabbè, quindi bisognava anche averci una casa a portata, insomma, no? Sì, beh, ci stava, beh, ovviamente, non so, togli le cose importanti e ci metti quelle. Tipo i libri di scuola, ad esempio. Sì, infatti. E niente, dopo da lì ho cominciato ad aprirlo, guardare come funzionava, studiarmelo tutto, bruciarmi gli occhi con il raggio laser, perché non sapevo, era bellissimo vedere il raggio laser direttamente sugli occhi, ma vabbè, comunque sono cose che si imparano dopo. E niente, da lì poi non fatelo a casa, naturalmente, eh? Non fatelo a casa, diciamo. No, infatti, assolutamente. E dopo sono andato, ero in contatto con questo noleggiatore qui, che poi dopo mi ha regalato anche il disco di Dragonslayer con le EEPROM da cambiare per trasformarlo in Dragonslayer. E poi sai, era relativamente nuovo, quindi anche il lettore laser funzionava ancora bene. E niente, dopo da lì mi ha presentato un altro noleggiatore, allora ho detto, ma visto che sto cercando lavoro, vado a provare a vedere se hanno bisogno di me. E effettivamente quello lì era un periodo dove erano il top i videogiochi. E caso strano, incredibile, lì a Parma c'era l'importatore europeo della Williams. E io ho iniziato a lavorare, diciamo, lì con loro, subito andavo lì, guardavo, imparavo, cioè non è che lavoravo proprio per loro, diciamo, però ero sempre lì dentro, anche perché ero arrivato nel periodo in cui stavano smontando Williams, tutti quelli lì al laser, i futuri americani, e tutti dei giochi anche originali che non andavano, e c'è una roba che è incredibile spiegarla, cioè c'erano file e file di giochi al laser che li stavano smontando per buttarli via, rendetevi conto. E poi dopo praticamente sei sempre lì così, però dopo loro sono falliti, purtroppo hanno chiuso, e avevano, tra l'altro avevano appena, quando ero arrivato io, hanno appena finito di montare uno dei flipper della Williams, che era lo Space Shuttle, tutto assemblato completamente in Italia e venduto in tutta Europa. Però come tutte le cose, queste grandi ditte finiscono sempre per fallire, cioè lo vediamo anche con Modern Racing, Antarex, o fallire o comunque finire una storia. E allora dopo ho continuato a lavorare per i vari noleggiatori, sempre tenendomi anche la mia passione dei video, dei filmati, dei cartoni animati, quindi, perché non era un lavoro molto sicuro, cioè c'erano momenti in cui si navigava nell'oro e momenti in cui faticavano a darti lo stipendio, diciamo. Quindi questo è sempre stato un po' tipico di quell'ambiente, cioè non è mai stato un ambiente molto lineare, diciamo, come... No, assolutamente. Poi prima addirittura dell'arrivo dei videopoker era totalmente in crisi. Dopo, con l'arrivo dei videopoker, che è stata la distruzione più totale, però è stato dove si sono veramente arricchiti, cioè anche tutti i più grandi che sono rimasti adesso, i soldi grossi li hanno fatti lì. Cioè, tu dici commercialmente ha funzionato di più per chi era interessato, ma poi ovviamente tutto l'aspetto sociale e, diciamo, che faceva parte delle sale giochi è andato distruggendosi poi fondamentalmente. Sì, poi che poi io, scusa, ti faccio una domanda per un po' per semplificare un po' alcuni passaggi a me stesso, quindi magari pure alle persone che ci ascoltano. Fondamentalmente, a livello di arcade, quindi vabbè, i videogiochi che andavano in sala giochi, c'era il produttore, costruttore, c'era il noleggiatore e c'era il gestore delle sale, cioè non si compravano questi, oppure si compravano anche? Ma diciamo che le sale erano solitamente dei noleggiatori, di proprietà dei noleggiatori, anche perché le sale venivano usate come prova dei noleggiatori e degli importatori, anche perché gli importatori più grandi avevano varie sale tipo Rimini, ed era, diciamo, la prova se il gioco funzionava, cioè come arrivava il gioco non lo mettevano subito nei bar, lo provavano nella sala giochi. Se nella sala giochi funzionava, allora magari lo copiavano o se no ne importavano degli altri se era un mobile più, diciamo, quasi difficile da costruire, perché magari c'era la moto, c'erano delle cose così, quindi nelle sale giochi li provavano, li testavano, era, diciamo così, proprio un posto dove vedere se il gioco poteva funzionare. Dopo li mettevano nei bar, perché non sembra, ma anche il giro dei bar era, forse a volte, soprattutto nelle città non di mare o non nelle grandi città, erano più importanti i bar, perché dove si guadagnava veramente tanto. Sì, anche perché comunque i luoghi di villeggiatura vivevano 3-4 mesi, poi dopo il resto dell'anno bisognava monetizzare anche da qualche altra parte. Sì, infatti poi li spostavano, toglievano dalle sale giochi i giochi e facevano fare il giro nei bar, però erano tutti concentrati nel, poi nelle sale giochi ci rimanevano quelli grossi che non potevano essere messi nei bar. Quindi... Ma nei bar, scusami, giusto per capire, funzionava che il bar non pagava il videogioco, metteva giù il videogioco e poi prendevano una percentuale dall'incasso, in pratica? Sì, che solitamente era il 40%. Solitamente era il 40%, poi alcuni bar molto, diciamo così, molto che guadagnavano tanto, chiedevano ad arrivare fino al 45-50%, però sì, loro non spendevano assolutamente niente, loro davano semplicemente la, scusate il gatto, sì. Grande gatto, semplicemente la possibilità di mettere lì la corrente, tutto, e ci guadagnavano tanto, perché soprattutto c'è stato un periodo che i flipper non dovevamo andare nei bar a svuotarli praticamente tutti i giorni, perché sennò uscivano le monete dalla cassettiera e andavano a finire sulla scheda del flipper e andava tutto in bomba, cioè, quindi... Ma infatti io questa cosa me la ricordo bene, magari raccontiamolo a chi non l'ha vissuto, perché anche le sale giochi medio grandi funzionavano così, se non sbaglio, no? C'era poi quella cosa che era stata ipercontabilizzata quando sono inventati il contatore dei gettoni là, insomma, non so se sia la stessa cosa, però io mi ricordo comunque che arrivava l'omino, che di solito era un omino esterno che arrivava lì e svuotava tutte le macchine. E poi so in che modo contavano sti soldi. C'era la contare. Infatti, quando arrivavi nel bar, praticamente avevi le chiavi, aprivi, tiravi fuori le monete e le mettevi nel contamonete. Il contamonete ti diceva quanto aveva incassato. Quindi, o si davano direttamente i soldi di quelle monete lì, la percentuale, il 40% delle monete al bar, che poi la usava per scambiare, perché ovviamente andavano 100 lire i giochi o 200, no? Sì. Poi verso la fine 500 lire. Quindi erano sempre a ricerca di monete i bar, perché quando andavi, anche io mi ricordo quando andavo al bar cambiavo sempre 1000 lire o 2000 lire monete da 100. Sì, poi negli anni 90 hanno messo i gettoni, però mi ricordo. Ma non nei bar. No, non nei bar, no. Nei bar. Sale giochi i gettoni sono sempre stati, perché comunque è vero, i gettoni sono sempre stati, è vero, ragione. Poi potevano anche decidere la cifra quando volevano, valgono 200, valgono 250, infatti, valgono sì. 300, come gli girava. Soprattutto al mare, che sai, poi al mare è dove costavano un pochettino di più. Esatto, esattamente. Perché comunque c'erano giochi più nuovi, più grandi e più costosi. Però cerco di tradurre quello che sta dicendo Fabio Zed. In pratica dice che per i noleggiatori, cioè quindi che quelli che possedevano i videogiochi, i cabinati, eccetera, era più importante il circuito dei bar che delle sale giochi. Perché nelle sale giochi sì, e noi dove andavamo, dove magari c'erano le prime scelte, dove arrivavano, dove si vedeva se un gioco funzionava, ma poi il grosso degli incassi li facevano nei bar, perché anche se nel bar ce n'era uno o due, di bar ce n'erano 2000 e di sale giochi ce n'erano sì, due. Sì, questo è chiaro, certo. E quindi a livello poi quantitativo di incasso quello che contava era di bar, giusto? Ho detto, sì, sì, tradotto giusto. C'erano le guerre tra noleggiatori per beccarsi il bar più importante. Certo. Magari dopo magari allora lì succedeva che, non so, magari anziché il 40% arrivava l'altro noleggiatore, guarda, se ti portiamo i giochi noi ti diamo il 50, cioè, che poi quello lì, ah, così addirittura sì. Ma poi quello perché poi finché si trattava di videogiochi, che i guadagni erano, diciamo, belli ma non esagerati, quando arrivarono i videopoker, neanche proprio le slot, ma i videopoker, che i guadagni erano qualcosa di sproporzionato, e arrivavano addirittura i noleggiatori a comprare la licenza del bar per poter mettere dentro i videopoker, ma addirittura alcuni prendevano una ditta di caffè e dicevano: guarda, se tu ci metti le mie macchinette noi gli diamo il caffè gratis, hai capito? Quindi proprio perché e poi sai, non erano collegati adesso con internet, così, quindi i videopoker all'epoca, cioè, tu potevi anche dichiarare che guadagnavi, non so, 2000 lire al giorno a macchinetta, mentre invece in realtà fighi, bisogna andare a svuotare di pomeriggio tre volte e poi avere anche la guardia del corpo per andare a svuotare, perché rapinavano anche andavano a svuotare. Poi in certi ambienti immagino che sia stato pure pericoloso. Sì, sì, è una roba molto, molto... Non se ne parla adesso, poi vabbè, adesso è tutto collegato, VLT, mica VLT, cioè... E tutto, però una volta era proprio, e poi senza contare che le schede dei videopoker costavano tipo 200.000 lire, a differenza magari di una scheda originale di un gioco che ne costava magari 1 milione, 1 milione e due, cioè. Sì, e vedo che in realtà stiamo già affrontando dei temi che erano nelle domande. Vabbè, ma non è giusto, si va avanti così, è ed così. Giustamente si entra nel dettaglio, cioè di quello di come funzionava l'ambiente, no? Di quali erano le difficoltà anche di gestione, di manutenzione. Tu ti sei, conoscevi quindi tutto l'ambiente da dietro, dalla parte del... Oltre a conoscerlo anche dalla nostra parte, perché ci giocavi anche ai videogiochi, giustamente, come hai detto all'inizio, conoscevi bene tutto quello che succedeva dietro, ecco. E quindi è proprio in rapporto a quello che hai appena raccontato, quali erano le cose più difficoltose, diciamo, nella gestione? Cioè, in particolare, magari in una... quali erano le situazioni più difficili a livello tecnico o a livello anche ambientale della gestione di questi giochi? Allora, nelle sale giochi la gestione più difficile era quella della clientela, nel senso che di solito erano luoghi di aggregazione e quindi di solito c'erano le compagnie, che molte volte c'erano compagnie che magari facevano delle bande e magari litigavano con altre compagnie di altri quartieri, certo. O se no anche spacciatori che venivano nella sala giochi per poter vendere. Ed era uno dei motivi per cui dicevo prima il fatto che ragazzini. Comunque in alcuni ambienti, tipo, che ne so, comunque magari le maestri oppure i professori oppure i genitori non erano contenti se andavi in certi posti, in alcune sale giochi in particolare, perché poi c'era anche questo fatto, magari comunque collegato alla droga, che c'era, no? Perché, ma come nelle sale giochi, in tanti altri ambienti di aggregazione, diciamo, un po' più, tra virgolette, imboscati, perché poi le sale giochi comunque erano ambienti bui, di solito comunque c'era comunque un clima che permetteva magari determinate cose. Poi sì, non solo, ma io ricordo che c'erano dei posti tipo il circolino o la bocciofilo o certi posti dove noi bambini non ci saremmo mai entrati neanche a pagare, e però ci piazzavano dentro dei cabinati, tu passavi per la strada, lo vedevi dentro, entravi e alla fine ti ritrovavi a giocare in un luogo che era completamente estraneo a un ragazzino, dove dentro c'era gente che giocava ad azzardo, fumava, bestemmiava, si beveva, cioè era un luogo per adulti con i vetri marroni, cioè proprio tu entravi in un luogo. Vabbè, tu dici posto, dalla sala giochi alla bisca clandestina il passo era breve, allora tu, questi ragazzini sono lì, entrano in questo luogo che fanno un casino, poi e la gente dentro bestemmiava, mandate fuori il coglione, e tu eri lì che giocavi, pensavi solo di poter maneggiare questo gioco, e dietro avevi un posto dove io non sarei mai entrato, ho paura di entrare lì, non sarei mai entrato. Invece il cabinato toglieva tutte le paure, entravi, ti giravi, andavi, lo guardavi il gioco, quello che c'era intorno non esisteva più, eri isolato dal mondo, non aveva importanza il luogo. E capitavano luoghi un po' così, poi a parte i luoghi quelli lì di periferia particolari, ma anche luoghi dove, pur di monetizzare, ci ficcavano dentro i giochi, tabaccherie, anche tabaccheria c'era, e la tabaccheria non è un luogo dove va un bambino normalmente. Insomma, ma anche nelle latterie, nelle latterie che adesso non c'è. Sì, latterie, la mia latteria sotto casa, infatti ho un aneddoto poi dopo sul mio documento. Tra l'altro ricordo proprio, perché siamo comunque in tema, andate a ripescare su Spreaker o cercate negli aggregatori Quando Eravamo Futuro, il nostro podcast, perché proprio forse nella prima stagione abbiamo fatto una puntata dedicata alle attività commerciali, agli ambienti, diciamo, che non esistono più e che appartenevano magari agli anni 70 e 80, compresa, appunto, come abbiamo detto, le latterie. Sul discorso che facevi te, Davide, io dal cabinato ero isolato dal resto del mondo, magari mi sentivo al sicuro, in realtà davanti al cabinato c'era sempre il tizio più grosso, che era più bravo di te, che ti dava i cazzotti perché ti dovevi levare a giocare a lui, cioè, quindi insomma purtroppo le sale giochi sono state una scuola di vita da un certo punto di vista, insomma, no? Giusto, Carlo? Sì, assolutamente vero, anche se, come dico sempre, io ho la fortuna di essere nato nel 1970 e devo dire che probabilmente sono stata la prima generazione di giocatori, tra virgolette, dico giocatori professionisti, nel senso che proprio appassionati del videogioco, ecco, non casual gaming, tra virgolette, nel senso, io mi ricordo che quando io volevo giocare ai videogiochi avevo i ragazzini più piccoli che rompevano le scatole, all'epoca li chiamavamo i gufi, cioè se si avvicina uno di quelli è un gufo che ti fa morire praticamente, cioè il ragazzino con le dita cicciottelle appiccicose, che tu stai lì che stai facendo il record al videogioco, arriva questo che ti infila la testa testa tra il joystick e il monitor per guardare. È vero, però tutti siamo stati anche quello. Io sono del 72 e devo dire la verità che sono cresciuto con le sale giochi. Non era l'ambiente che iper frequentavo, ma lo frequentavo, comunque mi divertivo. Quando c'era un posto dove c'erano i videogiochi e c'erano le sale giochi, io ci stavo sempre. Però mi ricordo anche che c'era la curiosità, no? Nel senso, tu quel gioco che magari non eri bravo e volevi vedere com'era il quadro successivo, cosa succedeva, ti mettevi a guardare sempre gli altri, e però poi ci si accalcava, perché comunque lo schermo era a portata del giocatore, non era a portata del pubblico, no? E quindi comunque tu dovevi infilare la testa. Ha ragione Carlo, sta cosa è un ricordo bellissimo. Infatti poi a un certo punto fecero i camminati, esatto, col monitor sopra. Questo ce lo può raccontare Fabio, giusto? Il monitor sopra era proprio tipico dei giochi a laser, se non sbaglio. Lì è nato da Dragon's Lair, perché veramente c'era il pienone per vedere, perché bisogna rendersi conto che adesso siamo abituati a vedere delle grafiche bellissime, ma se tu puoi renderti conto che quando è uscito Dragon's Lair c'erano giochi come potevano essere, che ne so, ma neanche Outrun, cioè Galaga magari, capito? C'è roba veramente, certo, bella. Mappi, per esempio, dello stesso, penso che sia dello stesso anno di Dragon's Lair, ma vedere proprio, tra l'altro Dragon's Lair non era neanche un cartone animato da poco, perché cioè, era comunque di Don Blatt, derivava da un disegnatore della Disney, era, anche l'animazione era curata molto di più rispetto anche ai laser giapponesi. Quindi era una roba che tutti dicevano, ma com'è possibile? Infatti tutti si chiedevano come si potesse giocare, perché tutti pensavano che muovere un omino cartone animato col joystick era una roba... È vero, questa cosa me la ricordo molto bene, perché noi pensavamo che quella era la grafica, no? In realtà poi diceva, no, non è la grafica, è un gioco laser, e tu pensavi che era il laser che faceva tutto, cioè, questo laser magico. Ammetto di essere rimasto deluso poi quando ci ho giocato, in realtà, che era un gioco, era un cartone animato e tu avevi una mossa da fare ed era semplicemente un gioco di memoria. Poi mi ha un po' deluso, bello, ma preferivo guardare la gente giocare piuttosto che giocare io. Ah sì, anche perché costava i veri soldi poi alla fine. Tre da 200 lire. Sì, esatto. Che era tanto per l'epoca, che costavano una moneta da 200 lire gli altri giochi, sì, quello dovevano devi mettere tre. Però c'era la coda, la calca. E sì, tieni conto che comunque quello non, a parte vabbè, la Sidam che lo fece comunque su licenza, ma non era copiabile. Comunque, prima di riprendere un ordine delle domande, io voglio fare, però voglio un attimo fare un inciso su questa cosa dei giochi laser, perché io ricordo, poi ditemi se dico una stupidaggine, che credo che il boom sia stato, cioè nel senso l'inizio, lo startup di questa logica è stato proprio Dragon Slayer e poi ovviamente Space Ace e tutti quelli che sono venuti dopo, no? Però io ricordo che c'erano tantissimi altri giochi che avevano il video in background. Certo. E tu c'avevi la navetta che la potevi muovere più o meno come Firefox della Atari, cioè, no, che... no, più che altro Astron Belt prima, certo, cioè Astron Belt prima, Interstellar della Funai, esatto, che c'erano quelle, queste esplosioni che si vedeva proprio che era uno stacco di ripresa, no? Cioè che erano c'era che... anche quello di automobili Laser Grand Prix, esatto, sì, poi dopo ah, brutta infatti, roba, ma era tutta roba che comunque se ne vedevano poche in giro, se non nelle sale giochi più grandi al mare, ma nei bar, cioè quando uscì proprio Dragon's Lair, lì ci fu proprio un'esplosione, tutti lo volevano, perché era una roba che attirava anche gente nel bar, cioè c'era la gente che andava nei bar apposta per vedere questo gioco incredibile dalla grafica e vedere chi era bravo, perché poi c'era sempre quello bravo che rimaneva lì, che poi faceva ridere perché c'erano i più bulli, che quando, non so, arrivavano la principessa, cosa facevano? Davano l'ultima mossa, poi si giravano, andavano via e lasciavano vedere tutta la scena finale, tutti la gente diceva, guarda neanche il finale. È vero. Perché quanto sei ganzo per fare una cosa del genere? Io penso che quel gioco... Vai Davide. No, dopo ci mettevano il monitor sopra, proprio perché la gente, sennò si accanivano tutti a guardarlo, perché... Davide l'abbiamo perso, mi sa... No, Davide. Vabbè, Davide, mo adesso ci riproverà a rientrare. Tra l'altro, io invece ricordo anche il fatto che, essendo, come dicevi tu anche all'inizio, Zed, comunque delle macchine particolarmente delicate rispetto agli altri, perché c'era questo lettore di laserdisc che doveva ovviamente saltare traccia in traccia, no? che comunque anche l'accalcamento sul cabinato significava anche magari toccarlo, spingerlo, magari farlo far saltare, ne so, magari la traccia, non so, immagino che ci potessero essere anche problemi di questo tipo. Beh, tieni conto che i videogiochi, allora, dalla gente che si arrabbiava quando perdeva, gli prendeva pugni, spaccavano vero, vero. Capitava di tutti. Il gioco al laser, sai, fare rompere un gioco al laser, poi tra l'altro soffriva molto anche del fumo del locale. Infatti si mettevano dietro dei filtri tra il lettore e le prese d'aria per cercare di far andare meno polvere, anche perché erano i primi laser, lettori laser che, della Philips, che erano, non dico dei fallimenti, però erano veramente... È tornato Davide intanto. Disastrosi. Quindi... Ma buttato fuori, non so bene. E sì, quindi erano molto delicati, e poi soprattutto anche a spostarli. Per spostarli dovevi prima metterci una vite che bloccava il rullino che andava avanti e indietro con l'ottica, e quindi o li mettevi in una sala giochi o se no li mettevi in un bar che ci stavano tantissimo tempo. Però mentre in alcuni bar alcuni videogiochi venivano spostati di metri da gente che giocava anche molto violentemente o quando si arrabbiavano, perché noi ne abbiamo visti di tutti nei bar, proprio... immagino, infatti sì. Puoi raccontare magari qualche aneddoto di cose che hai trovato, di riparazioni particolari, insomma, o di istruzioni particolari che hai trovato. Sì, so. Soprattutto anche monete strane, è stata una cosa bellissima. Ci fu un tempo che in un paesino che siamo andati a svuotare praticamente la gettoniera, perché non erano gettoniere elettroniche, erano gettoniere basate sul peso e la dimensione della moneta, no? E c'erano tutti questi pezzi di ferro di lamiera della stessa dimensione delle 100 lire dentro. E ovviamente c'era solo uno in quel paese lì che lavorava in un posto dove producevano lamiera. Quindi l'ha beccato subito, però. Beh, non è stato molto intelligente, dice, no, però fino a che è durato me la so goduta intanto. E io l'avevo scritto nel documento che siamo riusciti a trovare un posto dove, infilando un 100 lire, era ancora un Pac-Man che andava con le 100 lire, con un filo attaccato, un filettino di cotone, con lo scotch attaccato alla moneta, riuscivamo a infilarlo dentro e arrivavi a un certo punto che prendeva il credito. Tu tiravi fuori la moneta e lui non se la teneva. E quindi giocavamo gratis con un... C'era una gettoniera probabilmente molto scarsa, non funzionava con gli altri. Tu arrivavi, quando arrivavi ad avere il credito non riuscivi più a tirarla fuori la moneta. Però quello lì funzionava e si giocava gratis. Sì, ma sai che questa cosa me la ricordo anche io, però, del fatto di sì, dopo l'hanno tolto perché c'è una levetta piccolina che fa tipo da passaggio una volta, poi torna su e non puoi più tornare indietro. Ma quella l'hanno messa dopo. Sì, tipo una tagliola praticamente. Sì, hanno risolto il problema di questo qua che infilavi con dentro. Beh, ma ce ne sono tante, state tante nella storia. Mi ricordo che quelli della Modern Racing, quando li abbiamo intervistati, ti ricordi, Fabio? Eravamo andati insieme a intervistarli. Quelli della Modern Racing ci avevano raccontato che nelle prime gettoniere del primo Space Invaders che fecero nel 1979 c'era il problema della gettoniera di metallo che veniva attivata dalla scarica elettrica dell'accendigas, quello da casa, quello... Anche nei flipper funzionava. Esatto, perché faceva un corto ed era come fa scattare praticamente... Sì, la scintilla faceva un grosso disturbo e praticamente quel disturbo la scheda lo vedeva come... È arrivata la moneta. È arrivata la moneta, non la scheda, proprio la gettoniera lo vedeva. Sì, come sì, però la gettoniera è una roba elettrica che va poi a dare il comando alla tastiera, è un segnale... La gettoniera alla fine non era altro che uno switch, ma probabilmente lì era una questione di massa, di come era cablato il gioco. Sì, e mi ricordo che ci dissero che passarono un weekend a cambiarli tutti praticamente. Ma come hanno scoperto? Cioè, come hanno scoperto? Questa roba qua del con l'accendino, che non aveva l'accendino, sì. Ha fatto troc ha preso il credito, via. Sì, avevo costruito anch'io, praticamente sai l'accendi gas, quello della cucina, no? Sì, esatto. Questa specie di scintillina. E dovevi... Ma se vi ricordate che in quei periodi, adesso non so se voi c'è qualcuno che fuma, però normalmente gli accendini hanno la rotellina con la pietrina, ma sì. C'è stato un periodo in cui c'erano gli accendini, quelli che facevano la scarica, tu schiacciavi, faceva stroc e faceva la scintilla elettrica. Ah, beh, ci sono sempre stati. Sì, quello, gas, quello della cucina. Esatto, però ci esisteva quello per le sigarette, lì siccome si fumava davanti ai giochi negli anni '80 si fumava e no, in più ti dirò di più, c'erano proprio i posaceneri sui cabinati. Esatto, c'erano proprio i posaceneri, tutti avevano un accendino sotto mano, magari era lì, ha provato a accendere per scherzo, che ne so, e ha scoperto sta roba. Esatto, e da lì poi quelli della Model Racing passarono poi un weekend a cambiare tutte le gettoniere delle sale giochi di Rimini e Riccione per questo problema che si era diffuso. Poi sai, quando una cosa passa parola, sì, certo, parola, lo sanno tutti, altro che internet. Esatto. Sì, ma guarda che sono cose stranissime, perché adesso con internet vabbè li vai a cercare, ma io mi ricordo anche come facevano ad arrivare a noi certe cose impossibili, tipo non so, la combinazione di tasti di Bubble Bubble per riuscire ad avere la caramella infinita, per esempio. Cioè sono cose che si passavano di bar in bar. Poi riuscire ad arrivare da chi erano partiti era impossibile, certo. Era impossibile anche, non so, tipo, vabbè, magari metti, non so, in Circus Charlie, quando devi fare tre salti all'indietro, poi saltare dentro. Sì, però queste sono cose che sono un bug o sono un qualcosa di previsto dal gioco, no? Per sì, ragioni. Assolutamente previsto. Okay. Quindi evidentemente chi lavorava all'interno di quel tipo di discorso, uno, un addetto, un impiegato, quello che te pare, ha mandato in giro l'informazione, no? Però non arrivavano, hai capito, a noi con le schede, evidentemente arrivano direttamente dagli sviluppatori, li passavano da Mitch Giappone. Sì. Poi quella roba lì di Bubble Bubble, per esempio, è arrivata. Copiavate talmente bene che copiavate anche tutti gli errori e i trick, roba che c'era dentro. Certo, a paro paro, 1-1. Lo sai, le ROM erano ROM, quindi il programma era quello. Si copiava pari pari. No, mi ricordo una cosa che mi ha raccontato Zed, se vuoi raccontarla, bellissima, sul discorso della modifica che tutti i noleggiatori a un certo punto avevano i programmatori di EEPROM per modificare le date dei giochi. Sì, questo, raccontala questa, allora, perché è divertente. Era sempre per il noleggio, perché esatto, finché il gioco era nella sala giochi un conto, però c'erano baristi che erano molto esigenti, no? Quindi se tu, non so, eravamo nel 95, gli portavi un gioco che era datato del 1993, allora il barista si diceva: ma hai portato un gioco vecchio di da 2 anni? Però sinceramente, perché guardavano la data, perché loro magari era un gioco che non era neanche mai arrivato nel quel paese lì, allora cosa facevano? No, adesso ne portiamo uno nuovo. Portavano dentro, prendevano l'EEPROM, cambiavano la data e magari ci mettevano, che ne so, addirittura l'anno dopo: ah, questo è un prototipo. Però il bambino è stato bello, fiero, contento. e qui cominciamo a parlare di truffe. No, questa non è una truffa, questa era un po' tecniche marketing. Sì, diciamo, esatto, brava, una tecnica di vendita. Sì, come 40 km, dai, uguale. Esatto, la macchina è nuova di zecca. È come Apple che ti dice che la USB-C è una grande innovazione del nuovo iPhone, la stessa cosa. Sì. È già il nuovo iPhone, è un'innovazione perché è uguale al precedente. Esatto. solo che ha il contenitore più bello di sempre. Sì, ma infatti parte tutto da noi italiani, nel senso, anche i cinesi che stanno copiando giochi come dei disgraziati adesso non hanno inventato niente, cioè. Sì, ricordiamola questa cosa, che con Carlo ne abbiamo parlato tante volte, lui ci ha fatto anche diverse conferenze, anche divulgazione e via dicendo. In generale noi abbiamo avuto un serio problema sul fatto che il copyright sui videogiochi in Italia non era normato, e quindi noi facevamo quello che ci pareva, e non è che era illegale, cioè non era legale né illegale, cioè era una zona grigia nella quale ovviamente anche aziende importanti ci hanno fatto soldi, insomma, no? Giusto? Sì, assolutamente. Se non sbaglio, Fabio, sei andato poi negli anni tu a ritrovare tutti quei famosi cantinari, come si chiamavano all'epoca, che copiavano queste schede, e hai raccolto la loro esperienza. Non so se lo vuoi raccontare un attimo. Anni i più storici che sono ancora. Come mai si chiamavano cantinari? Poi partiamo da lì, perché magari molti ascoltatori non lo sanno. Perché partivano proprio dai garage, dalle cantine. Come sai, tutto alla fine tutto parte sempre da un garage, stranamente. Però a quell'epoca funzionava così. Ma perché non c'erano quelle grandi ditte, però non so, arrivava la scheda, poi le schede erano anche facili da copiare, perché addirittura, cioè, bastava smontare, tu ti facevi la fotografia di tutti gli ingredienti, tra virgolette, gli ingredienti, tutto quello che ti serviva, no? E poi dopo addirittura il circuito stampato lo fotocopiavano con la fotocopiatrice, cioè dopo, una volta che ce l'avevi tutto lì, semplicemente dopo lo ridisegnavi le piste lì. Tanto lo trovavi semplicemente un magazzino, o se no si compravano addirittura loro le vasche con gli acidi per fare per fare, diciamo, il circuito stampato, prendevano i componenti che costavano pochissimo perché erano tutti integrati molto semplici, non c'erano chip custom, quindi era tutto molto semplice da fare. E addirittura alcuni, come fece anche la Modern Racing o altri copiatori, miglioravano il gioco, nel senso dicevano: no, ma tutta questa roba qua non serve a niente, togliamola, risparmiamo. E magari uscivano delle schede, magari addirittura le prime schede con più giochi, tipo Neo Geo, no? Nel senso che Neo Geo cambiavi la cartuccia, però c'erano dei copiatori che fecero schede che dopo bastava cambiargli l'EPROM e ci cambiavi il gioco. Capito? Quindi riuscivano anche, non dico a migliorare, però fighi, si ingegnavano. Ottimizzavano molto. Ottimizzavano tantissimo, tanto che ce lo raccontarono anche quelli della Model Racing, quando arrivarono quelli della Taito, per sgridarli perché avevano copiato gli Space Invaders, gli avevano chiesto: ma scusa, ma ci avete messo un quarto dei chip in meno? ed è anche più veloce. Che è per quello che si sono arrabbiati, mica per la fatta. Ricordo un gioco di cui ho fatto un video, che adesso non mi viene in mente il nome, ma era un gioco di calcio che era nato originale con una trackball, che era un oggetto strano e costoso, e rifarlo e duplicarlo era un casino, e hanno modificato la scheda per farlo andare con i joystick, in modo da utilizzare un mobile pronto scheda standard. E hanno fatto proprio una modifica alla scheda perché non era previsto che andasse col joystick. Beh, infatti, ma il gran finale fu proprio Mortal Kombat, che Mortal Kombat era un gioco stranissimo, o Street Fighter, anche Mortal Kombat. No, quello che racconti tu è di Mortal Kombat, che aveva tipo 6 pulsanti, se non 5, mi ricordo. 5, Mortal Kombat 5. 5. E quindi quando copiavano la scheda, anche se la scheda la copiavi, dovevi per forza fare altri due buchi, perché il massimo di buchi di pulsanti erano 3. Cioè non c'erano, e le 5 dovevi portare indietro dal bar il gioco, fargli due buchi in più, mettere i tasti, aggiungerli al cablaggio. E allora ci fu la grande coppia di Mortal Kombat italiana che andava a 3 tasti, e quello fu una roba veramente... Modificarono il codice del gioco di Mortal Kombat per fare le mosse con 3 tasti al posto di 5 praticamente. E questa fu la fine perché attirò addirittura l'attenzione degli americani, della Midway stessa americana, che mandò l'FBI poi in Italia. Mandò l'FBI a... perché se non sbaglio quelle schede, mi assumo quelle schede a 3 tasti, può anche essere che c'è una cosa del genere, cioè non è mica da poco, cioè cambi proprio il gameplay. Sì, abbastanza. Era una combinazione di giochi, una combinazione di tasti alla fine. Usavi il tasto centrale insieme al tasto davanti e quello dietro, e praticamente. Sì, ma devi cambiare il codice macchina, il codice oggetto. Cioè, no, secondo me agivano in un integratino prima che combinava gli ingressi degli input. Però no, ma c'era gente brava. Guarda che avevamo un ingegno che... Sì. No, tra l'altro voglio dire, comunque modifichi proprio la struttura tecnica del gioco, ma al di là della questione del software che... Ma nessuno sapeva com'era il gioco originale. Comunque Street Fighter era un gioco molto tecnico proprio, cioè proprio dal punto di vista del gameplay, no? Probabilmente per molti italiani il gioco è a 3 tasti. Guarda, non lo metto in discussione. Adesso che esiste quello da 5. Come esiste da 5? No, adesso scrive qualcuno in chat: mo 5. No, il problema è che quella modifica, siccome faceva risparmiare un sacco di soldi, perché i mobili pronti avevano 3 tasti e quindi non avevano bisogno di aggiungerli, interessava molto anche all'estero. E quindi perché arrivò poi l'FBI e la Midway? Perché queste schede iniziano a venderle addirittura negli Stati Uniti, cioè dall'Italia le vendevano negli Stati Uniti per utilizzarle nei mobili pronto scheda senza modificarli. Quindi erano, se sbaglio vado a memoria, Fabio, però fu presentata a una fiera internazionale negli Stati Uniti questa copia di Mortal Kombat, se non sbaglio. In qualche modo sì, hanno esagerato dopo, ovviamente, come sempre, sai, poi esatto. E da lì arrivò, ci fu una specie di operazione tipo polizia internazionale, se non ricordo male. La Midway si chiedeva perché non vendevano più Mortal Kombat in Italia. Se lo domandavano in tanti come mai non vendevano i loro giochi in Italia. Sì, beh, molti però lo sapevano, infatti noi eravamo un po' considerati un po' il terzo mondo del videogioco per quel motivo lì, no? Non eravamo calcolati proprio, non perché calcolati. Sapevano ma con noi anche la Spagna è più o meno uno dei grandi, anche perché la Spagna aveva, sì, però devi considerare che la Spagna a quell'epoca aveva un'economia che non era paragonabile alla nostra, cioè noi eravamo un'eccezione perché in realtà noi già negli anni 70-80 eravamo una delle economie fiorenti, un paese industrializzato, G7, G8, cioè eravamo un'azienda, una nazione che aveva le potenzialità di un mercato paritetico a quello dell'Inghilterra o della Germania, però non mettendo la legge sul software ci siamo praticamente giocati quel mercato per più di 10 anni. E ancora oggi ne paghiamo le conseguenze, perché se tu vedi che Spagna e Francia producono software AAA o AA, e noi no. E noi no, noi ci abbiamo solo un'eccellenza in Italia. Sì, alla fine sì, ci siamo normalizzati alla fine degli anni 90, praticamente dopo 10 anni dell'introduzione della legge, quando fummo obbligati dall'Unione Europea dell'epoca, quella che all'epoca si chiamava CE, Mercato Comune Europeo. Vabbè, comunque questa è un'altra storia di cui abbiamo già parlato in altre puntate, in altri programmi. In altri programmi, in altre modalità, in altri modi. Riprendiamo un po' il filo. Sì, non lo so, vorrei magari, Fabio, giusto fare il punto su, prima di magari passare poi alle domande, non so se qualcuno ha raccolto tutte le domande che sono arrivate in chat. Davide sicuramente l'ha fatto. Le faremo tutte, però prima magari facciamo una chiusa con te per quanto riguarda il rapporto tra quello che era quel mondo quando hai iniziato tu, quindi diciamo alla metà degli anni 80, nel grande boom del videogioco classico, e quello che c'è invece adesso praticamente, cioè quello, le sale giochi che esistono ancora oggi, ma il mondo è completamente cambiato, giusto? Sì, allora, le sale giochi ovviamente esistono ancora, però nei posti di mare o se no nei bowling, diciamo, perché ormai trovare un videogioco in un bar è impossibile, quindi e anche nelle città, a Parma per esempio non c'è più una sala giochi, quindi sono sparite tutte, anche perché comunque infatti la differenza che c'è dall'epoca adesso è che prima nel bar il videogioco era molto più avanti a livello di tecnologia rispetto a quello che potevi giocare a casa. Adesso invece a casa riesci a giocare dei giochi che per trovarli nella stessa la stessa potenza e bellezza nelle sale giochi hanno dei costi anche molto cari. Infatti adesso il problema grosso che c'è adesso nelle sale giochi è trovare giochi nuovi che attirino gente, anche perché i giochi sono sempre più grandi, cioè sono dei giochi che sono veramente enormi. Quasi qui avrei magari un video che mi è mandato recentemente da far vedere a proposito di videogiochi enormi che fanno adesso, non so se vogliamo mandarlo. Sei stato recentemente a Vienna, giusto, al Prater? Sì, alla IAPA, che è praticamente la fiera dei videogiochi, che come una volta c'era Las Vegas. Eccolo, vediamo. Ecco, adesso per chi magari non sta vedendo il video e ascolterà il podcast, stiamo vedendo praticamente un Mario Kart dal vivo, in pratica. È un gioco di Mario Kart, ma dove tu guidi il go-kart praticamente, ma hai una proiezione di quello che puoi prendere, degli oggetti, vari bonus su, direttamente sulla pista, sì, e poi si vede un grosso tabellone con un punteggio per cui si accumulano punti e c'è chi vince, perché è inutile dire che io non vedo l'ora di metterci i piedi sopra, insomma. Quante corse ci hai fatto, Fabio? 2, 3, 4 ma ci ho fatto tre partite, perché comunque c'era da prenotare, perché in fiera tutti volevano provarlo, perché ovviamente diciamo che era proprio una super novità, poi effettivamente non è alla portata di tutti, perché questa ditta qua penso sia tedesca, e è molto bello perché comunque sono tipo più di 20 proiettori nel soffitto, che anche le macchine noi le vediamo colorate, ma in realtà non erano colorate, venivano colorate direttamente da un mapping, no? Tipo da un mapping che facevano che sulle macchine, quindi non so, potevano esserci anche tutte le macchine rosse. Poi nella pista comparivano gli oggetti che tu li, quando ci passavi sopra prendevi, non so, il missile che lo lanciavi all'altra macchina quando veniva colpita, come praticamente Mario Kart, soltanto che guidavi un go-kart elettrico, ma anche bello potente, perché poi era tutto gestito dal computer, nel senso che gestiva lui anche se andavi fuori pista, ti fermava la macchina, quindi certo, la pista veniva proiettata. Però se tu andavi fuori pista la macchina si bloccava, così come se prendi il turbo va più veloce, sì, così come il turbo se più veloce, ti sparano, ti fermi, insomma proprio come Mario Kart ma dal vivo, cioè sì, proprio fisico, fisicamente. E questo è incredibile, ovviamente divertentissimo, però è anche un gioco che non so quanti centinaia di migliaia di euro ci vogliono per prendere. Sì, è anche impegnativo perché bisogna trovare una location per dove poterlo piazzare. Sì, al di là di. Scusa, ti interrompo così al volo, perché poi chiaramente questo si tratta di cose che vedremo nelle grandi aggregazioni, nei grandi posti, nei grandi centri commerciali, nei posti o tipo anche i vari park a tema o cose del genere. Gardaland, perché certo, chiaramente non lo vedi al centro commerciale Porta di Roma, insomma, sotto casa. Esatto. No, beh, al di là di quello, ma la cosa bella è che c'è questa tripla mistura tra videogioco, tra Mario Kart e immagine proiettata, che è una sorta di realtà aumentata poi alla fine, se vai a vedere, anche se ovviamente qui si tratta di proiezione. Ed è divertente proprio il concetto del fatto che tu stai cioè il tuo kart reagisce come reagirebbe il kart su Mario Kart, ossia hai preso il bonus vai più veloce, hai preso il malus vai più piano, certo, oppure puoi penalizzare quello che sta di fronte a te. Deve essere una cosa meravigliosa, oltre al fatto che poi è tutto tutti i led, tutte le luci dappertutto, che per me significa praticamente malattia mentale, insomma. Sai dove lo vedo bene? La riconversione dei posti dove fanno kart, sì, ma realmente kart che magari era un po' stufato il kart, sì, non va sì, più di moda. Bisogna vedere se sono in condizioni, però devo dire, diciamo che lo spazio lì c'era, poi bisogna solo ricambiare un po' tutto, no, però già lo spazio è un bel punto di partenza. No, perché Zed fuori onda ci diceva quanto costava lo starter kit per una cosa del genere, insomma, giusto? Sì. Lì chiedevano per il totale, nel senso comunque è un franchising, loro ti chiedevano tipo 40, mi sembra, 1000 euro per entrare nel franchising, e più un investimento totale di 600.000 euro, però ti davano loro, mi sembra, un aiuto di 140.000 euro, però insomma, poi tieni conto che ci devi aggiungere il locale, perché comunque è un capannone enorme, e almeno 4 persone a lavorarci, perché comunque i card devono sempre essere ricaricati perché sono a batteria, quindi ci deve essere almeno uno che si occupa sempre dei card, un altro che sta al computer, un altro che controlla e un altro alla cassa, quindi almeno 4 persone. Quindi può funzionare se viene comunque affiaccato da un bar, da un'altra sala giochi e da un posto di passaggio molto grosso, perché 600.000 euro è veramente tantissimo investimento. Ma uno che io, quando vicino dove io c'è un grosso capannone dove dentro c'è una pista da kart, e penso che ce ne siano anche più di 4 persone che ci lavorano dentro, e l'ambiente è grosso, più grosso di quello che ho visto in quel video, per cui secondo me se c'è Davide che continua kart, così ci ricordiamo negli anni 90. Vabbè, hai frizzato un secondo, infatti sei morto. Vabbè. Stavo dicendo che è vero che l'ambiente è molto grande, però se non sbaglio, correggimi se sbaglio, Fabio, gli chiedevano un ambiente senza colonne. Sì, e quindi è complicato anche questo, che devi avere tipo 10.000 metri quadrati senza colonne. Deve essere proprio un super capannone. Perché poi era il capannone della fiera, era perfetto per allestirlo. All'esterno certo, non è fattibile, chiaramente. Perché insomma, no, penso che... perché deve avere i videoproiettori sul soffitto, deve esserci buio, quindi sicuramente è complicato. Però questo dà l'idea di come si è trasformato il divertimento. Quindi stai dicendo proprio macchine sempre più grandi, è immensa addirittura questa. Sì, o se no, comunque macchinari molto grossi in generale. Costosi, perché anche uno degli ultimi giochi della Road Race, che è il Fast and Furious, l'ultimo, che ha due schermi da 55 pollici, uno sopra l'altro, è alto quasi 4 metri, che non entrerebbe anche a fatica in una sala giochi, almeno magari nei bowling potrebbe costare, però è sempre una macchina che se ne metti due attaccate superi 50.000 euro. Certo. Oppure nei grandi cinema, per esempio, perché io ho visto che tanti di questi giochi, tipo, che ne so, quelli comunque che sei dentro comunque una struttura, che dà un po' un senso di magari di immersione. Sì, soprattutto ha un altro guadagno, capito? Quindi nel senso lo fa come investimento per attirare gente, ma non è che deve cercare di recuperare i soldi di quella macchina lì. Nel senso, nel cinema la gente ci va per il cinema, magari hanno, non so, un po' di soldi da investire, comprano questo Fast and Furious da $50,000 e magari la gente va lì, intanto si fa una partita. Ma è cambiato proprio il modello di business, quindi non parlo più come prima dei noleggiatori che poi guadagnano dall'incasso, non c'è più questo modello in pratica. Praticamente no. Poi adesso vedo che molte sale giochi, molti bowling stanno incominciando anche molto con i giochi quelli con col visore. Ci sono realtà virtuale, quindi quelli lì, e quelli sono forse le uniche novità che ci sono ultimamente nel mondo dei giochi da sala giochi, perché e arcade. Sì, ne ho provati alcuni veramente divertenti, cioè proprio che metti su, quindi l'Oculus praticamente, sì, che lo scende dall'alto, te lo metti, c'è il fucile, entri, spari, però puoi girare di 360 gradi, guardare. Molto belle. Poi c'è tutto un altro genere di simulatori, di montagne russe, tutti quelli. Sì, però c'è da dire che una cosa del genere ti fa un ambiente controllato, perché comunque sì, infatti non è più, no, ma è proprio cambiato il genere. Adesso anche nei bowling grossi, dove ci sono queste cose qua, ci vuole sempre almeno una persona dedicata alla zona di realtà virtuale. Infatti c'è una sala giochi vicino Shibuya a Tokyo, dove vado sempre a vedere le novità, che hanno solo giochi VR. Però lì, vabbè, in Giappone, cioè, ci sono. Mi dicevi che il Giappone negli ultimi anni è cambiato, nel senso che non pensa più di fare giochi da esportazione come faceva una volta. In pratica si sono chiusi al loro interno. In pratica. Sì, perché loro vanno molti giochi, sia giochi di carte, tantissimo. Quindi c'hai praticamente, sono tipo dei giochi di ruolo che lo giochi con le carte, che li metti. Noi avevamo il gioco del calcio che aveva fatto, mi sembra, la Konami. Che tu avevi le carte della Panini, tra l'altro, che la Panini vendette tante di quelle carte dei calciatori in Giappone, perché tutte le sale giochi giocavano con le carte della Panini. C'erano proprio distributori di carte Panini in Giappone nelle sale giochi, che tu facevi la tua formazione, la mettevi, poi dopo giocavi al gioco con la formazione che avevi delle carte. E adesso funziona così anche, che addirittura le puoi spostare durante il gioco, perché le carte comunque vengono messe su un tavolo che però è uno schermo, quindi le sposti, puoi fare gli spostamenti delle truppe e puoi giocare comunque lo stesso contro magari una sala giochi di un'altra città, o addirittura giocano spesso contro sale giochi della Corea del Sud, ovviamente. quindi è un po' un mondo a parte adesso, sì, non è, e più poi come... vanno tantissimo i giochi musicali in Giappone. Il pachinko? No, giochi musicali tipo vabbè, il Guitar Hero, tanto quelli con tamburo, quelli. Sì, però adesso ce ne sono alcuni che se tu, cioè un italiano normale o un europeo non riesce a giocarci, cioè bisogna essere per forza asiatico, nel senso devi avere un livello extra nel DNA, perché ho visto cose nelle sale giochi a Tokyo che ho detto, qua inenarrabili. Ken quando fa la mossa con 8000 mani. Soltanto che stavano giocando a un gioco musicale. Una roba di veramente troppo difficile, ma poi li vedi, perché c'è, cioè, vedi persone normalissime che arrivano lì con la 24 ore, ancora la giacca e cravatta, fighi, si mettono davanti così tutti tranquilli, poi fighi, inizia il gioco, incominciano a fare dei movimenti allucinanti, ma con lo sguardo fisso, proprio fisso, e sanno tutto a memoria, ma a una velocità che è impressionante. Non questo che significa che sia un bene, tutto questo, però, detto fra noi, però insomma poi ogni... Poi in Giappone c'è il tuo videogioco preferito di sempre adesso. Sì, quello di guidare la metropolitana. Tra l'altro quella sala giochi lì ce lo contendevamo io e un autista della metropolitana. Perché lui quando finiva di giocare veniva a giocare al gioco, renditi conto. Cioè lui finiva di lavorare invece di pensare, oh, voglio un attimo alienarmi dalla mia quotidianità. No, lui veniva a fare il gioco da metropolitana. Ma infatti era bravissimo, tra l'altro. Beh, certo. Sarebbe stato inquietante il contrario. Ma ti devo dire. Vabbè, enorme anche quello, perché tre monitor da 43 pollici e tutta la ricostruzione di Tokyo perfetta, e praticamente tutta la Yamanote Line, che è quella che gira intorno a Tokyo, e devi tutte le stazioni giuste, devi avere gli stessi orari precisi, perfetti, molto molto bello. però veramente, cioè, uno che ci lavora tutto il giorno, poi dopo la sera esce dal lavoro, ma non so se mi ha preso in giro, però lui mi ha detto che era appena uscito dal lavoro e faceva quel lavoro lì, e infatti gli ho detto sei bravissimo, lui fa ma io lavoro. C'era anche, non so se ve lo ricordate, nei bar, ed era un'eccezione secondo me in Italia, perché ovviamente in Italia il bar c'ha l'arcade che punta a fare più soldi possibili, fare più soldi possibili significa che devi giocare di meno e mettere più soldi poi fondamentalmente, però mi ricordo che c'era anche un simulatore di volo, che tra l'altro c'era nelle Marche, nel paese dove andavo io, e puta caso c'era questo mio amico che veniva spesso con me, che lui era un super fan dei simulatori di volo, anzi lui avrebbe voluto fare il pilota nella vita, ed era un gioco che tutto sommato non durava neanche poco, e ho sempre pensato che fosse un'anomalia in quel contesto. Sì. È un gioco della sala giochi, però io ce l'ho quello lì proprio, Top Landing della Taito. Può essere, non mi ricordo. Quello lì era proprio, poi ci fu anche la versione deluxe che addirittura c'aveva la cabina che ti chiudevi dentro, e poi hanno fatto la versione più grossa con molti più. Lì in realtà dovevi decollare e poi dovevi salire all'aeroporto dove atterrare. Sì, cioè, esatto. C'era... No, è molto bello, sì. Non è che sì, ci mettevi di più che una partita normale, però di solito costava anche di più la partita. Sì, beh, questo non mi ricordo, ma non mi ricordo, comunque la difficoltà era nel fare l'atterraggio di notte col brutto tempo, sì, con tutti gli alert che ti dicevano, ti metteva un po' l'ansia. E poi ti faceva vedere l'incidente alla fine, ti faceva vedere l'aeroplano spezzato in metà se sei sbagliato. Così, tanto per arricchire l'allegria, insomma. Va bene, non so Davide, hai raccolto qualche domanda del pubblico? Ci sono poche, non ci sono moltissime domande, più che altro delle curiosità. Una domanda che è stata fatta molto quasi all'inizio, Manuel chiedeva quanto costa oggi un cabinato originale anni 80-90. Penso che sia una cifra molto variabile. Cioè, dici da collezionismo, per fare i collezionisti. Okay. Che dipende dal gioco che ci sta dentro e dal livello di stato che ha cabinato, ovviamente. Sì, io non parlo perché sono contrario a ste robe, perché per me il gioco non deve costare più di 50 euro. In generale, indipendentemente da quanto è costato produrlo. Se vi dico i prezzi, allora io Mortal Kombat originale l'ho pagato 15 euro, il cabinato. Sì, cabinato, sì. Lui prendeva i cabinati prima che li ragnassero per buttarli in discarica. Ah, sì, okay. 15 euro era giusto per farti una fattura, hai capito? Quindi, no, comunque il mercato oggi parla di cifre ben diverse, ovviamente. Ma certo, vabbè, se parliamo di giochi ricondizionati, possono chiedere 1.500, 2.000, 3.000 euro se sono rimessi a nuovo. Se è come negli anni 80, magari vale 200 euro, 300 euro. Poi dipende che scheda c'è dentro. Guarda, tieni conto che il classico esempio è quello dei flipper, nel senso un flipper come la famiglia Adams, che ne hanno fatti uno sbardavello, e uno sbardavello è bellissimo, No, ne ha fatti veramente tanti, e penso che costava, ma forse a dir tanto, 4 milioni e mezzo di lire, nel senso 2.500 euro forse a dir tanto, e adesso si trovano non meno di 10.000 euro, non si trovano, e tra l'altro il mercante in fiera qua a Parma, dove vabbè i prezzi sono folli, ne avevano uno, chiedevano ben 18.000 euro, cioè per un flipper elettronico del, cosa sarà, 95, la famiglia Adams, non so, flipper non me ne intendo, quindi, però è veramente, diciamo, ci sta anche da dire che oggi i prezzi sono particolarmente folli proprio perché c'è un'attenzione certo, triplicata rispetto a un po' di tempo fa, perché oramai il vintage, soprattutto nel mondo del videogame, è una cosa che, un conto è comprarlo quando non interessa più a nessuno e lo paghi 10 euro, 10.000 lire. Un conto è quando è talmente, se siamo talmente avanti, che cominciano a diventare anche difficili, impossibili quasi da trovare, nel senso cominciano a diventare dei prodotti veramente molto vecchi, e a un certo punto chi li ha dice questa è la, se lo vuoi questa è la cifra, e il mercato funziona, e quindi alla fine la gente 10.000 euro è il prezzo giusto, lo paga 10.000, beh costa meno, pensavo 18, lo trovo a 10.000, va bene, costa poco, invece 10.000 è una cifra assurda che ovviamente il prodotto non li vale, ma il mercato, ragazzi, questo vale per tutto, qualsiasi cosa. Sì, sì, è vero, che sia antico, questa cuffia che ho in testa oggi vale 2 euro, e tra 100 anni varrà 20 milioni di euro. cazzo ne so. Quindi Diella, Diella di, da qualche parte, soprattutto devi tenerla tra 100 milioni di anni. E poi vabbè, altre domande, ecco. Si parlava di alcune gettoniere che al posto del 200 lire gli mettevi il 20 lire e ci cascava. Cioè funzionava come se fossero 200 lire, ci segnalano. E poi vabbè, molti commentano sul discorso dei giochi di realtà virtuale che stanno cominciando a diffondersi anche nei centri commerciali più, diciamo, più caserecci. La gente c'è molto hype iniziale, lo prova e poi non ci gioca più. Cioè, io su questa cosa mi sono espresso in tante situazioni. Innanzitutto la realtà virtuale non è universale, cioè non è una cosa, non è come il joypad, che bene o male è a più possibilità di essere universale, perché comunque lì c'è il fatto del 3D, dell'allineamento, del fatto della simulazione della tridimensionalità, l'inganno del cervello, ci sono problemi anche chi ha problemi di vista, che chiaramente possono non incontrare lo stesso tipo di risultato o addirittura avere anche dei fastidi. Io per esempio, mia moglie, che è una che non ha nessun tipo di problema di sorta, comunque più di 10 minuti, 5 minuti non riesce, cioè è proprio una cosa infattibile per lei, e così come per tanti. Quindi è sicuramente bello, sicuramente divertente e soprattutto stimolante, perché ogni volta che c'è una novità, che poi con Carlo possiamo dirlo novità relativa, insomma, perché è come quando ti dicono il 3D nel cinema. Il 3D nel cinema, il primo esperimento è stato fatto nel 1920, quindi esatto. Cioè, nel senso, capito? Sono cose che a ciclo. Ho giocato un gioco in realtà virtuale simile a quelli di oggi, ovviamente con la risoluzione molto più scarsa, più scattoso, credo nel 1990. Sì, sì, 85, sì, sì, sì, sì. Con i virtual. Ma sono cose che ciclicamente vengono riproposte, no? E ovviamente ogni volta con notevoli miglioramenti tecnici, ma c'è sempre un fatto non da sottovalutare, il fatto che comunque non è una vera immagine tridimensionale, ma è comunque un inganno che tu fai al cervello, e alcuni cervelli reagiscono in un modo, alcuni in un altro, insomma. E qui tra l'altro aggiungo che nella precedente manifestazione che eravamo, Carlo, mi sfugge, l'ultima volta non a Modena, a Vicenza, dove eravamo? Vabbè, insomma, forse eravamo a Modena, scusami, correggo, eravamo a Modena perché ho incontrato Francesco Di Muro, che era lì, Modena, che aveva uno stand, era insieme a delle persone e proponevano proprio la realtà virtuale, lì la proponevano come gioco, lui come professione la propone come strumento per aiutare gli anziani. Ha tutta un'altra funzione. Sì, lui c'ha proprio un progetto in esecuzione adesso. Esatto. Ovviamente lui ha portato questo progetto in un luogo dove c'erano i ragazzi giovani e giochi, però, e quindi l'ha portato per far vedere i giochi, sostanzialmente tornei di... Salutiamo Francesco, che vedo che è in chat, tra l'altro. Ok, ciao Francesco. Ha detto Modena Nerd. Modena Nerd, scusa, vicino a casa sua. Purtroppo Francesco, devi capire che ormai lui è una star, va talmente tanti eventi che non se li ricorda neanche. Comunque ho provato questo per la prima volta, devo dire, in vita mia, questa cosa, un gioco, okay. Avevo in mano dei raggi laser come quelli di Star Wars, con i quali bisognava affettare dei cubi che arrivano a tempo di musica verso di te o delle cose, e hai vomitato. No, ci ho giocato immediatamente, subito appena ho preso in mano lo strumento ho capito come funzionava il gioco e sono riuscito a giocare. Poi a un certo punto arrivano dei robi che devi evitare, ti devi spostare fisicamente, sennò ti arriva in faccia il cubo e non senti niente, ma insomma ti togli dei punti, perché è il solito gioco, quello che è musicale, che fai i punti se riesci a affettare le cose giuste a tempo di musica, se no non guadagni punti, insomma. E devo dire che funzionava bene, considerando che era una roba volante, una specie di demo buttata lì al volo e provata in 3 secondi, chiaramente in una struttura fatta un po' meglio. Bello era bello, però onestamente come gioco ci giocherei una volta o due, poi è impegnativo, è complicato. E poi anche per chi li deve proporne al pubblico è complessa la gestione di questi affari. Tu hai il casco che devi caricare, devi gestire, devi stare attento che la gente non te lo distrugga. È una cosa che un o po' che non cada per terra e se faccia male anche. Che non cada per terra, che non abbia problemi vari, anche se devo dire che gli ultimi oggetti per il 3D hanno ridotto molto questo tipo di fenomeno, che adesso non mi ricordo come si chiama, il coso thickness. La motion sickness in inglese, in italiano si chiama cinetosi. Ok, tipo la cinetosi è stata molto molto ridotta e pian piano migliorerà fino a diventare un oggetto abbastanza comune. È stata una bella esperienza, però non la vedrei come sono un po' più scettico di te su questa cosa, perché ti ho detto sono questioni riproposte da oramai più di 100 anni, quindi cioè, nel senso... però io non l'avevo mai provato una roba così. Mi è piaciuto, però mi è piaciuto e finito lì, basta. Io ho provato delle cose che sono dimostrative e sono divertenti e va bene. Quando il gioco diventa più impegnativo, secondo me lo sforzo che fai è triplo rispetto a giocare normalmente, per me. Poi chiaramente quello era un gioco particolare, magari giocare un gioco tipo Tomb Raider, butto lì un ma anche uno sparatutto in prima persona, tipo Call of Duty, per me è infattibile, cioè nel senso non ho idea di come possa essere l'esperienza, che per i giapponesi andrà benissimo, sì. E loro si innestano, si isolano e sono belli a posto. No, io non giudico i giapponesi, perché è una cultura che non conosco ed è totalmente lontana dalla mia. Devo dire che non ho quell'ambizione di fare come fanno tanti, andare in Giappone, andare nei quartieri pieni di sale giochi. Cioè, se dovessi andare in Giappone me ne andrei totalmente da un'altra parte. Cioè, diciamo che capiti per forza. Se vai a Tokyo. Sì, capiti se ci vuoi capitare. Se non ci vuoi capitare, non ci capiti, secondo me. Però questo è tutto un altro discorso, non c'entra niente. Dai. Io sono entrato in un coso Taito per vederlo. Poi sono uscito, basta, non ci ho neanche giocato. Carlo, riprendi le redini della tua trasmissione. Vedo che in chat chiedono se torneranno prima o poi gli elettromeccanici. Gli elettromeccanici, su Zed hai vissuto anche quelli. Tanti. Sì, io li adoro, perché per me sono, io più riesco a trovare. Spiega magari qual è la differenza tra un elettromeccanico e un videogioco attuale, praticamente. Ma più che altro l'elettromeccanico a sua volta è tornato con i giochi a ticket. Nel senso, i giochi a ticket sono praticamente giochi elettromeccanici, ovviamente più belli, più, però tipo non so, c'è quello devi lanciare la pallina nel canestro, quelle robe, quelli che dici dei premi tra virgolette, sì, quelli che ti danno il ticket e poi dopo vai a ritirare il premio, e quelli lì sono quasi tutti elettromeccanici, diciamo, o se no le varie ruspe che buttano i gettoni, che tra l'altro adesso butteranno tutti via perché in Italia sono diventate vietate quelle lì, purtroppo. Ah, non lo sapevo. Purtroppo, tra l'altro, è uno dei giochi che mi piace di più, nel senso, potranno esistere se i gettoni non verranno buttati fuori, ma verranno contati e considerati come punti. Pensa a te. Sì, quindi, perché gioco d'azzardo. I giochi elettromeccanici erano fantastici perché era tutto quello che potevi vedere in un videogioco, però lo vedevi meccanico. Ricordiamo il documentario che abbiamo fatto al museo del videogioco di Avezzano, dove ovviamente nel documentario che abbiamo girato, che ci è piaciuto molto fare tra l'altro, Carlo spiega in maniera molto dettagliata alcuni di questi giochi elettromeccanici, come funzionavano, alcuni con un film dietro, altri con delle diapositive, altri con un gioco di luci e via dicendo, insomma. Quindi... Guarda, io ce n'ho uno che lo trovo una delle genialate più incredibili che potevano fare, che praticamente devi colpire dei carri armati, no? Che girano su un rullo e tornano indietro, insomma. Comunque, quando tu colpisci il carro armato, l'esplosione del carro armato era creata con un'elettrocalamita che dava un colpo a una lastra di metallo appesa. Quindi sentivi il boato, facevi un boato come quando fanno gli effetti speciali nei film una volta, no? Che per fare il tuono scuotevano una lastra di metallo, e quindi erano tutti questi accorgimenti bellissimi. Sì, la tecnica che c'è dietro, che era bellissima in effetti, sì. Io ne ricordo due in particolare. Uno, vabbè, era stupido, quello che tu sapevi sul cavalluccio c'avevi la pistola davanti, sparavi o agli indiani, cosa tristissima tra l'altro, o all'orso, che l'orso faceva e tornava indietro, no? Mi ricordo questa cosa. Oppure ce n'era uno bellissimo, sempre col fucile e le anatre, penso, insomma gli uccelli, che erano proiettati su uno schermo, ovviamente su un telo da proiezione, chiaramente. Era Modern Racing. C'era questo qua, praticamente si muoveva lei, tu col fucile sparavi e quello cadeva giù, insomma. Bello. No, molto belli, difficilissimo da imparare. Sì, il problema di questi elettromeccanici, che erano molto costosi sia da realizzare che da mantenere, ovviamente, rispetto all'elettronica di un videogioco. È per questo che poi i videogiochi elettronici con le CPU eccetera li hanno soppiantati. È stato per una questione proprio economica, di manutenzione, di costo di realizzazione, oltre che poi di potenzialità nel tempo, perché ovviamente poi l'elettronica ha dato altre caratteristiche, insomma. Non dimentichiamo i flipper, che fino a un certo punto erano completamente elettromeccanici. Certo, assolutamente, sì. Poi è arrivata l'elettronica anche lì, ma l'elettronica solo sulla parte visuale, ma alla fine il flipper era comunque gran parte elettromeccanico. Certo. C'era Manuel che chiedeva, ultima domanda, poi passiamo alle chiusure, chi introdusse per primo il force feedback nei cabinati? Non so se sai rispondere, che io non lo so, almeno non, io conosco non solo il gioco che ho riparato di recente per quella persona che era venuta a trovarci in fiera, adesso mi sfugge il gioco, il nome era, si giocava con delle mitragliette e quando tu sparavi le mitragliette erano dentro un solenoide elettromagnete che vibra e ti dà l'impressione che stia sparando dei colpi. Ho fatto il video, non mi ricordo il nome del gioco, vabbè, comunque gioco non troppo molto vecchio, però è abbastanza moderno. Io non so, tu ne hai visti tanti, Fabio, te ne ricordi qualcuno molto vecchio con un ritorno di adesso così, io mi ricordo che c'era un gioco di macchine che per simulare la, adesso non mi ricordo che marca era, comunque per simulare la forza centrifuga nelle curve c'aveva una specie di non so, cuscino che si gonfiava nel sedile. Nel sedile, addirittura. Tipo per spostarti e farti quello lì, ma ce n'erano tanti che simulavano, perché poi erano tutti esperimenti, e anche giochi di pesca, no? Che c'hai la forza... addirittura ne ho dovuto smontare uno, perché addirittura c'era tutto un meccanismo di pompe ad olio dentro. Mi è venuto in mente, ma forse mi sbaglio, me lo ricordo male, ma c'era pure un gioco di sci che tu dovevi fisicamente sciare e davanti ti pompava l'aria per dal senso del movimento? Sì, quelli lì c'erano, tutti quelli lì sono tutti quelli che fanno parte dei giochi. C'era anche quello dello skateboard, quello dello skateboard d'acqua, lo snowboard, erano i giochi di metà anni 90 della Sega. La Sega ne fece veramente tantissimi di quelli. C'era la moto che ti piegavi tutto. Sì. Operation Thunderbird si chiamava il gioco, quello con le mitragliette, giusto per dare un nome. Sì, che era quello. Sì, che poi fecero anche Operation Beer, che era 2, mi sembra. E forse era la coditura, forse anche la coppia. Sì, comunque allora con force feedback, secondo me qualche cabinato di quelli dove ci si sedeva dentro a forma di insomma, ce n'erano stati diversi che ti davano. Ma trovare il primo è difficile, credo. Primo che adesso veramente sì. Quello è un'ottima, ma secondo me già negli elettromeccanici c'era qualcosa di. Sì, secondo me sì. Quelli dove sparavi che sentivi il colpo, il contraccolpo, perché dentro ci mettevano un elettromagnete che dava il contraccolpo e faceva il rumore anche. Tutti gli shooting di quelli lì col fucile, anche perché di solito era una lampadina, tutti dovevano per forza fare qualche cosa. Qualcosa per far credere che stesse sparando. Sì. Va bene. Non so, Simone, vogliamo fare un giro finale delle nostre ricordi? Io penso che facciamo proprio una cosa del genere. Anzi, partiamo proprio da Davide, dato che ha inquadrato lui, no? Un bel ricordo, un ricordo particolare comunque, che è legato a una sala giochi o un momento in sala giochi. Allora, vabbè, ho un momento particolare, come dicevo, a parte che una cosa che forse non abbiamo detto: ognuno di noi ha un'età diversa e ha vissuto un periodo comune, sicuramente tutti abbiamo vissuto un periodo circa comune, però io ho vissuto anche un periodo molto antecedente, cioè io ho visto le sale giochi. Sei vecchio, dai, questo stai dicendo, sei vecchio. Le sale giochi, io ero già grande quando giocavo a Space Invader, avevo già 13-14 anni, voi forse eravate dei bambini, non so bene la vostra età adesso, tutte io in varie età. No, io di aneddoti a parte le giocate gratis, l'unico aneddoto che mi viene in mente, perché è stata una cosa che non è una bella cosa. Non so se la voglio sentire questa cosa, però. Nel documento c'è scritto aneddoto tra parentesi di merda. Vedi voi, vedi te. Dicevo che un giorno eravamo sotto casa nella solita latteria, voglio ricordarvi che le latterie erano dei piccoli negozi che avevano un po' di tutto e che lo spazio per il cabinato lo trovavano spostando un po' di scatoloni, qualcosa, mettevano il cabinato. Quando poi il cabinato è diventato una cosa di successo, trovavano il modo di metterne 5 o 6, 7, entrando nel bagno, sbaraccando via mezzo negozio, perché guadagnavano di più con i cabinati che con la roba che da vendere. E si era formata una specie di stanzina, che era un magazzino, con 3-4 giochini, e noi eravamo sempre lì a giocare, ammucchiati lì dentro. Beh, io quel giorno mi sono ritrovato con in tasca, non so bene per quale motivo, del Gutalax. Che, così, so, casualmente. Ma veramente, guarda, sai che non mi ricordo perché, se c'era già in mente qualcosa di premeditato o ce l'avevo, perché non mi ricordo. Fatto sta che in frangente di gioco qualcuno aveva un amico mio, poveretto, sfigato, mi ha dato la lattina da tenere mentre lui giocava, io avevo la sua lattina di Coca-Cola, e per fare una cosa un po' veloce volevo mettergli dentro qualche goccia di Gutalax, insomma l'ho spremuto il Gutalax, ho buttato dentro non so quante gocce. E niente, dopo poco la situazione dopo non molto è diventata veramente un po' particolare. E stavo dicendo che la situazione si è trasformata un po' come le nostre serate su Runtime by Night. Stavo pensando la stessa cosa, forse. Che tra l'altro ricomincerà proprio questo sabato sera sì, alle 23. Ricordiamo. Chi vuole partecipare è benvenuto. E niente, quindi è andata a finire proprio così, e quindi ci siamo ritrovati un po'. Non voglio andare a ulteriori particolari, ma avrete capito. Immagino. Vabbè, insomma, c'è stato lo Square House, insomma. C'è stato lo Square House mentre si giocava. Mamma mia, guarda, così all'istante proprio. Lo Square House fulminante. 30 gocce di Gutalax. È una brutta storia. Cioè, e poi vabbè, niente, tutte le tecniche per cercare di fregare le macchinette, di cercare di accenderle e spegnerle velocemente per vedere se riuscivamo a fregarle, ma abbiamo fatto tante di quelle cose. Vietate ovviamente in quella latteria, perché era in un angolino dove potevamo fare un po' quello che volevamo. Ma sì, ma poi sai che ne capiva il gestone della latteria di quello che stavi a fare. Latteria, gli interessava quando arrivava il tizio che apriva la scatoletta lì delle monete, tirava fuori e gli dava i soldi, basta, gli fregava niente. Venite. Poi comunque noi consumavamo, perché poi ridi e scherza all'interno della latteria o del bar o della bocciofila, anche all'oratorio li hanno messi dei bulli dappertutto, si giocava sì la Coca-Cola e il panino e una palla e l'altra, c'era anche un indotto non ma male. Sì, certo, ma d'altronde lo scopo era anche quello, no, tutto sommato porta gente dentro. Francesco. Sì, allora io diciamo non due ricordi, uno normale e l'altro di merda, diciamo. Piace, questa sera va di moda. L'ha introdotto. Un ricordo normale è quello carino, in cui mi ricordo quando vidi per la prima volta il cabinato di Buggy Boy, quello vero, perché io Buggy Boy la prima volta l'ho giocato sul Commodore 64, che per quanto fosse una bella conversione, si tratta sempre di 160 pixel per 200, quindi alla fine il cabinato di Buggy Boy originale con tre CRT enorme, e quindi mi ricordo questa grande gioia di vedere l'auto proprio enorme che sballottolava da una parte all'altra degli schermi. Invece il ricordo di merda è proprio legato non alla latteria ma a un bar in cui c'era, oltre ai cabinati, c'erano anche le famose macchine, le slot machine, il proprietario del bar, che chiaramente conoscevo, lui sapeva della mia passione per i computer, ed essendo anche lui un fissato delle slot machine, giochi del lotto, queste cose qua, era convinto di aver trovato la tecnica vincente per vincere sicuramente al lotto, proprio come... E mi disse, ah, tu, lo dico in italiano, lui me lo disse in dialetto, in barese, lui mi disse, dal momento che tu sei esperto di computer, lo sto facendo, dice, ti spiego questo sistema segretissimo, non lo dire a nessuno, e tu mi fai il programma, dice, io ti do 50.000 lire, e tu mi fai il... Mazza, oh. Cioè 50 milioni mi devi dare, se era tecnica invincibile. Fatto sta che io, insomma, gli feci il programma con questa tecnica, questa si può dire? Una una stronzata pazzesca che aveva pensato lui. Insomma, gli feci questo programma, lui mi dette 50.000 lire e una settimana dopo si lamentò che non funzionava il programma, chissà per quale motivo. E l'ha rivoluto i 50.000 lire? L'ha rivoluto i 50.000 lire, dico. No, me li ha dati i soldi. Dico, non l'ha rivoluto indietro, però. Eh no, ormai me li hai dati, che cazzo vuoi? C'è la tecnica di merda, la tua, la tecnica di merda che non funziona. Quindi c'era un posto abbastanza, come dire, popolato da queste persone un po' superstiziose, un po' così, come diceva Davide, non un posto per ragazzini. Questa era la... Quindi dove bestemmiavano, dice, insomma. Sì, se andava bene bestemmiavano. Allora, invece il mio ricordo, l'ho già raccontato, penso, da qualche parte, però lo riracconto, comunque è una cosa carina. Avevi perché dei pantaloni normali? Avevo dei pantaloni normalissimi, ero piccolo, cioè avevo 10 anni, quindi guarda, in un arco di tempo dal 1980 al 1982 questo evento che è successo, perché c'era mia zia che lavorava praticamente a Cattolica e faceva praticamente faceva l'amministrazione dentro un hotel di questa signora, questa proprietaria, cioè questa serie di alberghi, che era un po' una matta scatenata, cioè aveva tanti soldi però non sapeva gestire. La mia zia faceva l'insegnante di matematica durante l'inverno e d'estate faceva praticamente questo lavoro per questa signora qui, insomma, nel periodo in cui questa lavorava di più praticamente. Però quando mia zia lavorava dentro questo hotel era praticamente intoccabile, irraggiungibile, tant'è che io una volta mi ricordo che andai a stare lì una settimanella con mia zia in hotel, però praticamente io stavo tipo allo stato brado, cioè non c'era mia zia per me, non ci poteva essere, perché come mi avvicinavo all'ufficio dove stava mia zia, la signora mi braccava e mi diceva dove vai, zia sta lavorando, e vabbè, zia sta lavorando, ma io volevo andare a sala giochi, allora la signora prendeva, tirava fuori 50.000 lire, ragazzi, 50.000 lire nel 1980, e vai a sala giochi, e io nell'arco della giornata queste 50.000 lire me ero sbaragate tutte ai giochetti, insomma, fondamentalmente. Mi ricordo c'era la signorina, io poi non è che quella, se mi dava 50.000 lire io mi accorgevo che erano 50.000 lire o meno, chissà quanto mi avrà fregato. C'era la signorina della cassa che praticamente faceva, ma questi sono troppi soldi, te li do un po' per volta, mi diceva. Vabbè, mi dava un po' di volta, dice, quando li finisci rivieni, e io praticamente li finivo subito, perché non subito, insomma, non è che ero un fulmine proprio, a parte i giochi che sapevo giocare, l'altro, insomma, volevo provare tutto, e quindi a un certo punto questa fa, dice, no, ma basta, mo sono finiti i soldi, e io mi sono sentito inculato questa cosa qui, perché secondo me qualcosa non ha funzionato, insomma, come avrebbe dovuto, e vabbè. Quanti anni aveva quella signora, secondo te? No, era una ragazza, quella era una ragazza, non era una signora. Ah, quella che t'ha fregato. C'era avuto una ventina d'anni. E tu invece avevi? Io ci avrò avuto 8-10 anni. Quindi ha 10 anni più di te, oggi quanti anni avrebbe? Oggi è morta. Ecco, stavo arrivando a dire, consolati che magari è morta. È morta, ma magari è stata pure onesta, Non avrò mai la risposta a questa domanda, in realtà non me ne so. Se ascolta questa signora che si ricorda di te, del magari... bambino del bambino che arrivava con 50.000 lire ogni tanto, ogni tanto c'erano queste 50.000 lire, perché è come arrivare adesso con 300 euro 400 euro insomma, sì, insomma 50.000 era tanta roba, ma poi lei così senza colpo felice proprio mi dava no, non rompere, tiè mi dava sti soldi come se mi avesse dato un pezzo, sì, di carta igienica, che ti dà 50.000 lire ma è fuori lo so, ma purtroppo questa non ci stava tanto la testa. 10.000 lire va bene ancora Carlo. Io dovevo piangere per averne 1.000 quando dovevo andare a iniziare i giochi. 1.000 lire era la paghetta massima che potevi pretendere a quell'epoca per andare in sala giochi. Vabbè, io l'ho già. Beh, ma anche per... io, se non fosse stata per questa situazione sì, particolare, non è che. Squilibrio. Come ho già raccontato tante volte, le sale giochi, la sala giochi in realtà è stato proprio l'inizio della mia passione per l'informatica, come ho detto all'inizio. E ho già avuto modo di raccontarlo diverse volte. Io ero passato quasi immediatamente, tipo già 10 anni per dirti, dall'essere il giocatore, quindi ne avevo 7 quando ho iniziato a giocare ai videogiochi praticamente. E già verso i 10-11 anni la mia passione non era neanche più giocare, ma era andare in giro. A quell'epoca si facevano le classiche vacanze di agosto, cosa che adesso non si fa più, no? Quando ad agosto si fermava tutto e la famiglia o con i nonni o con i genitori, tu praticamente te ne stavi un mese da qualche parte. E io passavo un mese, a quell'epoca anche più di un mese, in Liguria, a Borgio Verezzi, dove hanno la casa i nonni e poi i miei genitori. E la mia passione era passare tutti i bar, tutte le sale giochi, tutti gli impianti, tutti i bar delle spiagge, insomma tutta quella zona estiva dove arrivavano le novità, per catalogare in ogni dettaglio tutti i giochi che uscivano. Quindi non so cos'è arrivato di nuovo, quest'anno vediamo cos'è arrivato qua, guarda questo 1942, poi Time Pilot, e quest'altro è Crazy Kong, cioè, insomma li catalogavo tutti, li copiavo sui quaderni, copiavo gli sprite, copiavo i dettagli. Pensate la malattia che mi aveva già preso all'epoca, quindi già non giocavo più, ma guardavo gli altri che giocavano e io descrivevo poi tutto il gameplay, il gioco, la grafica, mi scrivevo tutti gli appunti, i giochi che uscivano, tutte le cose. Quindi da lì capite che poi è stato un attimo iniziare a programmarli, e già negli anni alla seconda metà degli anni 80 facevo videogiochi e li pubblicavo, quindi il passo è stato abbastanza breve. Comunque questa era la mia esperienza delle sale giochi e dei videogiochi in quella fine degli anni 80, primi anni 90 praticamente. Dopo. Beh, anche se Zed in realtà... Che sta mostrando un bellissimo cabinato. Però il mini cabinato che ha fatto Davide. Che però non si vede nella preview. Aspetta Davide un secondo, perché non ero attrezzato. Ecco. Il mini cabinato che hai costruito recentemente, hai fatto un episodio su Survival Hacking, okay. Il canale YouTube su, e poi dopo che sei diventato cieco non ti sentiamo più Davide, e non hai l'audio, sei disaudiato. Sì, sono mutato, ero mutato. Ah, ok, adesso cerco sempre di mutarmi per evitare di sentire brutti suoni di sfondo. Che io ti ho detto fallo di legno e tu no, di legno no, perché l'ho fatto di legno, non mi è piaciuto, l'ho fatto di metacrilato. Vabbè, comunque torniamo, anche se Zed insomma ha un po' risposto già di suo, comunque se c'ha un ricordo particolare Ti qualcosa di divertente oppure qualche segreto che non è facile raccontare, magari qualcosa che magari non hai mai fatto sesso su un cabinato, non tutti sanno. No, direi nemmeno lì. grande. Vai, ricordi più belli sono come Carlo, cioè io quando andavo al mare, io e mio fratello andavamo da Rimini fino a Riccione per vedere le sale giochi, vedere se c'erano giochi strani, diversi, segnavamo tutto il gioco, che giochi c'erano in quella sala giochi, Infatti abbiamo scoperto un paio d'anni dopo che c'era anche il mare a Rimini. Però in realtà erano, sì, abbiamo trovato delle robe che, cioè tipo Laser Grand Prix o se no altri giochi stranissimi, tra l'altro anche giochi che per fortuna ne ho ritrovato uno da poco, anche dei cloni diversi di altri giochi che magari erano difficilissimi da trovare, perché erano giochi erano tanti, o se no anche andavamo a fare anche i giri qua a Parma nei bar per vedere se riuscivamo a trovare dei giochi diversi. Quelli, poi altre cose strane, boh, cioè, ho fatto di tutto, da andare a cancellare i numeri di serie dentro un container per dei flipper che non dovevano essere in Italia a andare a visitare una delle più grandi aziende di coppie dove sembrava di essere fighi. Quando ero arrivato era bellissimo perché c'erano questi due piani pieni di giochi vecchi che però erano lì perché non li volevano buttare via, quindi c'era veramente di ogni. Mi ricordo che da lì ho smontato una delle due insegne di Esha-Urumilla, da un Esha-Urumilla, che poi tra l'altro una l'avevo data a Marioni, che Marioni poi l'ha venduta, insomma alla fine l'ho ritrovata nel cabinato di Nati, con l'insegna lì di Antonio, che era la mia. Ha fatto esatto. Un giro allucinante, ovviamente io le regalavo perché una volta ci si vedeva, ci si regalavano le cose doppie, adesso certo. Di Esha-Urumilla penso il doppione, una macchina usata. Ma io una delle cose più divertenti che mi ricordo che mi hai raccontato era la storia dei prosciutti regalati alla Guardia di Finanza. ma più anche le banche, sì, sai, perché vabbè, lì lavoravo in sala giochi ovviamente diciamo così, senza un regolare contratto, no? Un giorno a un certo punto fighi arrivano dentro la sala giochi, cominciano a pignolare tutto, arriva la Guardia di Finanza, diciamo, in sala. Sì, prova, e tu cosa ci fai qua? Adesso vedrai, insomma. Giorno dopo il mio boss, che era comunque uno importante, abbiamo fatto un giro con la macchina in giro, abbiamo distribuito prosciutti ovunque, e la sala giochi due giorni dopo ha riaperto. Quando ce la cavavamo con un paio di prosciutti. Ma poi le cose belle erano le Nada, cioè le Nada, la fiera poi quella dei videogiochi, lì si vedeva veramente quando c'erano i soldi. Cioè il mio capo aveva chiamato c'era stata la presentazione del flipper della Willy, della Bally, mi sembra, di Playboy, e avevano chiamato proprio le conigliette di Playboy, che erano quelle che poi erano anche sul vetro del flipper. Ed erano venuti alle Nada, e quindi il mio capo ovviamente era arrivato con la Rolls e la pelliccia di Ermellino. Sei capito? Lì facevano la gara a far vedere chi aveva più soldi, c'erano degli stand a due piani, poi ti dico, la pausa pranzo c'erano proprio dei veri e propri ristoranti, si vedeva proprio la ricchezza che c'era nel mondo dei videogioco. Dell'arcade, non so se era il Sim Hi-Fi o che altro posto dove si vedevano tutte queste novità a Milano, lo SMAU o il Sim? No, era la fiera campionaria, Padiglione 33, me lo ricordo come se fosse oggi. Le Nada penso che incominciò nel 72. Sì. Invece quindi, la fiera campionaria a Milano aveva un padiglione dedicato al divertimento automatico, si chiamava all'epoca, divertimento automatico, al cui interno c'erano i flipper, i videogiochi, eccetera, cioè tutti i divertimenti che andavano nelle sale giochi. Io lì vidi il Strago Slayer probabilmente prima che uscisse in sala giochi. Sì, lì si vedevano tutte le novità. Io mi ricordo che lì presentarono anche il laser game dell'Atari di Firefox, e siccome erano in free to play in fiera, io arrivai tipo prestissimo, perché a quell'epoca avevo mio padre che faceva la fiera campionaria nel padiglione dei metalmeccanici, faceva banchi da lavoro mio padre, quindi entravo alle 6 di mattina con quelli che facevano gli stand, e io la prima cosa, entravo insieme a mio padre alle 6, mi fiondavo al padiglione 33, mi sono attaccato a Firefox dell'Atari alle 7 di mattina, e l'ho lasciato tipo alle 3 o alle 4 del pomeriggio quando l'avevo finito, praticamente. Ti sei tolto la soddisfazione a gratis. Gratis, esatto. Lì era roba da 100.000 lire, eh? Ah, beh, sì. Andava con 2 o 3 monete quello. Vabbè, erano altri tempi, insomma. Va bene, dai, io direi che ci siamo, no? Insomma, siete soddisfatti di quello che abbiamo raccontato? Potevamo raccontare di più, potevamo raccontare di meno, non lo so. Ma penso, come insomma, la tradizione di quando eravamo futuro, sono trasmissioni, la trasmissione di quando eravamo futuro non è una trasmissione di tipo storico dettagliato come archeologia informatica, ma è qualcosa dove raccontiamo le nostre esperienze, le nostre... Sì, diciamo che noi cerchiamo di contestualizzare la società e la cultura di un periodo della nostra vita, cercando anche di dare degli elementi, ma chiaramente non c'è comunque la pretesa tecnica o comunque il rigore storico che magari mettiamo in altre situazioni. Un altro progetto, un'altra idea che mi è venuta in mente, già ho detto a Carlo, ma magari per dicembre forse ci riusciamo a fare, è quello di parlare del negozio dei videogiochi degli anni Ottanta. Quindi è una cosa che ho sempre trovato grande difficoltà, lo ammetto, proprio perché comunque molte persone, quelle poche che ho conosciuto io, trovano difficoltà a parlare di una cosa che oramai, diciamo, è anche prescritta, insomma, dalla legge. Il periodo della grande coppia. Però si vede che molti l'hanno vissuta veramente molto male. Quella cosa. Abbiamo un personaggio che ha lavorato in questo settore. E tra gli ascoltatori, ma non diciamo chi. No, però ecco, si vuole palesare la nostra intenzione è quella appunto di portare un ospite che ci possa raccontare come funzionava, come non funzionava, e anche il racconto della transizione, no? del grande passaggio, perché c'è stato un momento in cui c'è stato un passaggio, c'è stato il momento in cui io sono entrato dentro un negozio di computer, di videogiochi, il mio negozio di videogiochi, gli ho chiesto Indiana Jones and the Fate of Atlantis e lui mi ha dato la scatola e io ho detto: che succede? E lui mi disse: zitto, lascia perdere. E quello è lì, ho capito che era successo qualcosa di veramente grosso, ma non fa niente, va bene comunque. Ragazzi, io vi ringrazio a tutti. Ringrazio Zed chiaramente in particolare della sua disponibilità, ringrazio tutte le persone che sono state in diretta con noi, che hanno partecipato, insomma anche un numero abbastanza interessante. Vi ricordo che Quando Eravamo Futuro e Archeologia Informatica fanno parte del progetto Runtime Radio, www.runtimeradio.it, lì c'è un pulsantino che si chiama Anche Io, se volete contribuire. Lì ci sono tutte le modalità, altrimenti paypal.me/runtimeradio. Vi ricordo che Quando Eravamo Futuro è un podcast che potete trovare su Spreaker e tutti quanti gli aggregatori, cercatelo. Archeologia Informatica è sia un podcast oramai decennale, abbiamo festeggiato da poco i 10 anni del nostro podcast, che è canale YouTube, che è questo che state vedendo. Iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like e condividete i video, aiutate il progetto a crescere, perché presto torneremo a pubblicare, insomma, altri video. Come sapete, noi ci sono periodi che pubblichiamo ogni settimana, e poi ci sono periodi in cui andiamo in letargo, però questo purtroppo non è il nostro mestiere, e dico purtroppo, perché insomma ci piacerebbe che lo fosse. E per questo io direi che per oggi è abbastanza. Controllo un attimo se c'è qualcosa. Carlo, vuoi dire qualcosa? Io in chiusura giusto ricordo che questo weekend saremo a Erba al Lario Fiere, alla fiera che si chiama Comofan, comofan.it, il sito internet. Troverete me sia sabato che domenica. Davide verrà domenica, giusto? Vieni Davide, ci sarà domenica. Forse ci sarà Zed, se riesce. Speriamo. Dai, se riesci, comunque, come già conoscete la manifestazione, troverete tante cose interessanti e tutto lo stand di Retro Campus, con tutti gli amici di Retro Campus, l'esposizione eccetera, più tutto quello che trovate in fiera, tanti cabinati arcade. È l'argomento di stasera. Vi ricordo anche, e mi stavo dimenticando, che ovviamente Davide Gatti lo trovate su Survival Hacking, sul canale YouTube, anche lì iscrivetevi, attivate la campanella, anche se non c'è bisogno di endorsement, però insomma, voglio dire, volevo solo aggiungere che il prossimo weekend invece, sì, non questo, il prossimo ancora, sarò a Roma. Allora se becchiamo sabato e domenica, a 21 e 22, non vorrei dire i giorni sbagliati, sarò lì, mi troverete in giro. Io, come l'ho già detto più volte, condividerò la mia posizione in tempo reale su Telegram, per cui chi mi cerca mi trova lì e sa dove sono. Ok, io approfitto l'ultima cosa prima di salutarvi definitivamente. come ho già detto apertura, ringrazio tutti i nuovi abbonati Patreon, perché improvvisamente in un mese i patreonisti sono raddoppiati, semplicemente, e questo per noi è importante. Lo sapete che quello che facciamo a livello di Runtime Radio spazia su mille campi: la web radio, i podcast e tutto quanto. Quindi tutto questo ha un costo che noi sosteniamo volentieri, perché quello che facciamo lo facciamo per passione, però ovviamente gli aiuti fanno sempre comodo. E Carlo, se hai ancora il documento aperto, alla fine del documento ci sono quattro nomi che vorrei ringraziare. Io purtroppo in questo momento non lo posso riaprire, certo, perché sono le ultime quattro donazioni che abbiamo ricevuto su PayPal, se ringraziamoli, insomma. Sì, sono tre in realtà che è scritto sul documento. Ringraziamo per le donazioni recenti Pietro Confalone, Giuseppe Marmo e Massimo Apollonio. Potrei inventare un nome, anche Franco Rometti. Il quarto. Giovanni lo sta. Va bene. Buona grazie notte a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao.